alla zanzara di Giuseppe Cruciani, che non è una persona intelligente, ormai il numero di parolacce fa sì, non le sente neanche più. Se Giuseppe un giorno dicesse la parola tenerezza, rimarrebbero tutti a bocca aperta, perché al cinquantesimo stronzo va in culo, cioè, passa, esce, entra un orecchio, esce dall'altro. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mio figlio di 5 anni mi dice: papà, metti alla zanzara, sentiamo quei due miserabili, fammi sentire quel miserabile di Parenzo e quel parassita di Cruciani. E c'ha 5 anni, ha capito tutto della vita. Credo di aver capito quali sono i complessi di inferiorità dei due conduttori della zanzara. Io credo che Cruciani rosichi tantissimo del fatto che sì, guadagna bene, però ha dei colleghi che hanno dei cachet stellari e lui ha dei cachet ancora abbastanza normali. E invece Parenzo rosica un casino perché non è riuscito a laurearsi, caspita. Impara le frasi a memoria di latino per poter ostentare una cultura che evidentemente non ha, se no sarebbe laureato. Teste di cazzo! Voglio dire a quel cretino che mi ha lasciato il messaggio prima, eccoci, non quello sì. delle teste di cazzo, l'altro, sì. che essere laureati non significa assolutamente nulla, zero, zero, zero, assoluto, è pieno di rincoglioniti laureati. No, dovresti dirlo anche tu, Parenzo, soprattutto no, ma tu. Ma non me ne frega niente proprio, come dice prima. Me ne frega niente, sono ero a cena al Baglioni, me ne frega niente, ma niente. Ma che c'entra il Baglioni, Peltri? Ma perché va sempre al Baglioni? Non ma, ho capito. Perché costa carissimo, lo pago mai. Ma che c'entra, io. Meglio andare dove si paga meno, ma, no? Ma assolutamente, a pranzo, 150 euro a colazione. Quanto? Oggi. Quanto? 150 almeno. Ma 150? Poi, notte a bottiglia di vino, almeno 40 euro. Ma non me ne frega niente, ma proprio, ma mi invitate, mi dovete far parlare degli zingari, degli stupri che ci sono. Degli immigrati, ma sì, ma adesso, frega adesso. Niente parlare queste robe qua, ma niente, proprio niente. Intanto ragazzi, ieri sera grande coming out parenziano, finalmente finalmente ti sei dichiarato, Parenzo, sciocca la zanzara. Parenzo confessa: sono comunista. Ma chi hai detto? Ma come no, hai cantato. No, no, no, ho cantato, ma non sono mai stato comunista, sono un riformista di sinistra, sono un socialista liberale, sono un socialista liberale. Ma falla spiegare al camionista di Bustanzizio. Sei stato e sei ancora nell'animo comunista. Lo hai dimostrato ieri sera. Sono socialista liberale. Ma no, lascia perdere queste cose qua. Cresciuto alla scuola dei fratelli Rosselli. Sì, vabbè, sì, mio nonno in carriola. Aspetta, Gobetti. Fermo. La prova è questa. La prova è questa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ecco, scalda, avanti popolo, fuori il cannone, rivoluzione, vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far rivoluzione, noi vogliamo far evviva la boccia e la libertà. Ma non era boccia, è un po' un conflitto di interessi. Urla il vento, fischia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. La la la la la la la la la. Hey! Ma quel coglione di Parenzo sta cantando avanti popolo, bandiera rossa, col cappotto di cashmere da oltre 1000 euro addosso. Sta a capo da cazzo. Oh, yeah. ragazzi, parliamo di cose faccio più... Faccio sommessamente notare che sì, un cappotto sì, di cashmere non può costare 1000 euro, molto di più. No, appunto, no, molto di più. No, vuoi 1000 euro il cappotto di cashmere? Allora, fermi tutti. Gentilini da Treviso dice che Trump è un suo allievo. Ma cosa c'è di Gentilini? Che cazzo ne so, amico mio. Non lo so, guarda, succede di tutto. Gentilini, Trump è un mio allievo. Carissimi cittadini, sì? Io credo che il più grande sostenitore del sì? presidente degli Stati Uniti Trump sia Giancarlo Gentilini. Ah, come mai? Perché io considero Trump un mio allievo. Ah, no. In quanto sì? la maggioranza silenziosa ha approvato il programma di Trump, che è quello che io avevo presentato 22 anni fa, e cioè la sicurezza massima dell'Italia e dei suoi cittadini. Ma no! Cioè, capito, secondo Gentilini, adesso credo che stia scherzando, ma non credo, perché poi la maggioranza magari... silenziosa intanto sono io. Sì, cioè, Gentilini pensa che Trump lo abbia copiato semplicemente perché diceva fuori tutti gli immigrati dai coglioni, allora lo avrebbe copiato. Dai, non Gentilini. Sa neanche chi è, ma Trump non sa neanche secondo chi lo è. Sa, dici ma no. Figurati. Allora, io ieri sera ho attaccato la mia amica Caterina Balivo per la questione del Festival sì, di Sanremo. Sì, ho letto anche quello che hai scritto sì, oggi su Libero. Sì, l'ho attaccata dicendo che ha detto una grandissima cazzata sulla Leotta. Quella però devo dire che risentita. Mi fanno molto risentita, sì. Sei arrabbiata? Sì, ha voglia. Ha fatto benissimo. Ma chi se ne frega, dai. Ha fatto benissimo. No, ma chi se ne frega, mi dispiace, ma io dico quello che penso sempre, anche quando riguarda gli amici. Non mi sei arrabbiata, cosa ha detto? Cosa ma, ha detto? Ma sono cazzi miei, ci siamo sentiti no, per telefono. Adesso. Ma no, ma sono cazzi miei, ma perché lo dovrei dire? Scusa, ha ragione, arrabbiata, te l'avevo detto io. Fa bene, ti deve togliere il saluto. Deve prima togliere il saluto e poi devono chiudere la trasmissione come seconda cosa da questo? Fare cosa quella. Cazzo c'è? Sì, perché non si sopporta più questa trasmissione. Ma... vabbè, comunque l'hanno attaccata pure su un'altra frase che ha detto che è quella su Ricky Martin. Sì, certo. Ora ragazzi, è intollerabile che le associazioni gay rompano i coglioni quando uno pronuncia la parola frocio. È diventata una cosa insopportabile. Cioè c'è tutto il mondo omosessuale, gay.it, omosessuali giornalisti, gente che ha fatto coming out e pensa che non si possa utilizzare la parola frocio, associazionismo vario, i vari Mancuso e giù a discendere. Lo stesso amico mio Cristiano Malgioglio ha detto: Caterina, che male c'è se quello è frocio e sia omosessuale? Questa povera Balivo ha detto: peccato che quello è frocio Ricky Martin, altrimenti probabilmente se lo potrebbe, cioè, che ne so, magari se lo scoprirebbe. Questo è il punto fondamentale. La parola frocio bisogna vedere come si usa. Se io ti dico brutto frocio, testa di cazzo, frocio di merda, non è o bello. Se sono uno di Casa Pound, evidentemente ti voglio insultare. Ma signora Balivo, che è circondata da checche ogni giorno, perché è circondata da checche, a partire dal suo amico Ciacci lì alla Rai, so tutti i froci quelli che stanno intorno a lei. Ma per cui... Ciacci, non lo so, Ciacci è un ottimo... Ciacci è omosessuale di quelli proprio alla grandina. No, Ciacci. Sei scemo, signor Ciacci, quello grosso così. Anzi, è innamorato. Ogni volta mi dice di al tuo amico Giuseppe. Ma guarda, quello è frocissimo. Quella... Ma di che stiamo parlando? Certo, non è contro i gay, signor Balivo. Mi piace anche. Si sente, piace. Vabbè, mi piace. Alla Ciaccia. Comunque, sentiamo Balivo, si sente poco. Ricky, sei buono anche se sei frocio. E l'hanno attaccata per questo. Ricky, che fanno per il frocio. Sono froci, problemi loro. Chi è questo, sono froci, problemi loro? Non mi ricordo. Ah sì, Cassano. Famosa fase di Cassano, Ma stamattina che hai fatto? Una battaglia con Giovanardi? Un'altra battaglia con Giovanardi stamattina? Ieri alla gabbia, ieri sera. Ah, ieri sera, sì. Chiedo, me lo sono trovato lì. Contro Parenzo. O viceversa. Una cosa incredibile. Sì. Cosa c'entra quanto prende Cazzullo scelto dal Corriere della Sera? Deciderà il Corriere quanto pagarlo? Scelto, perché lei si deve paragonare. Io sono stato scelto dagli elettori. Lei, io sono stato scelto, non scelto. A parte scelto, che lei non è stato neanche eletto. Scelto dagli elettori. Sempre perché è stato con la nominato, preferenza. Quindi... sono stato eletto. No, lei però, sono stato nominato. Non voglio entrare, lei. Non voglio entrare io in questa polemica. Io sono sempre stato eletto con la preferenza. Rimaniamo. No, è una menzogna. Rimaniamo. Te sei stato scelto, scusi, da Confindustria. Cioè, capito? Tu scelto da Confindustria e lui eletto dagli elettori, questa era la cosa. Avanti. Tu sei innocente. Ma scelto da chi? Io ma cosa dici? Cioè, da un privato. Da un privato. Ma perché ci sei te? Ma perché ho scelto te? Ma che te ne frega a te? Perché ci sono io. Bravo. Hanno scelto me, avranno sbagliato un domani. Senti, invece sono stato eletto. Un domani. Ma eletto da chi? Con le preferenze. Sono stato nominato. Ma non mi interessa. Ma va benissimo, infatti. Eletto. La democrazia è anche avere Giovanardi. Guarda, io difendo pure questo. La democrazia, come dice Ciro, c'ha mille difetti, tra cui Giovanardi. Anche avere quindi dei giornalisti va benissimo così. Anche Giovanardi. Anche avere dei giornalisti però così. La... Ragazzi, è tornata a parlare la Boldrini. In realtà non si era mai fermata, la signora Boldrini parla sempre, continuamente. L'abbiamo un po' snobbata recentemente, però voglio farvi ascoltare questa roba, perché il presidente della Camera che si occupa dell'odio su Facebook, io ho già detto, l'odio è necessario, c'è il diritto all'odio. D'altra parte, se non ci fosse l'odio non ci sarebbe nemmeno l'amore. Cioè, questa è la sostanza, non ci sarebbe nemmeno la concordia. Cioè, l'odio è necessario alla società, ma assolutamente l'odio non bisogna fare. Ma come si fa il diritto all'odio? Come si fa a fare la battaglia all'odio? L'odio è un diritto, c'è il diritto ad odiare. Cosa vuol dire il diritto Aspetta, a odiare? C'è il diritto a odiare. Ma è normale, perché tu l'odio come può essere proibito? Di te puoi come odiare, puoi, sicuramente. Come puoi, puoi non è proibire un l'odio? È impossibile, come no, dire voglio eliminare la luce, voglio eliminare gli oceani, voglio eliminare l'acqua. L'odio è nella società e resterà sempre. Non puoi fare la battaglia all'odio. È una cosa ridicola. Comunque, al di là di questo. Ah, quindi l'istigazione all'odio no, è un ma quella reato è un'altra che deve cosa. Essere abolito. Lascia perdere ma fammi reati. Capire. Ma noi la battaglia contro l'odio è questa. Oh. Cioè, l'istigazione all'odio è un reato. Poi, senti, la Boldrini deve tagliare i nastri, non deve romperci i coglioni sull'odio, deve tagliare i nastri, fare discorsi generici, banali, come fanno tutti i presidenti della Camera. Ognuno prendere lo stipendio quello. E non rompere i coglioni col Facebook e con le altre cose. Non è compito suo dire a Facebook quello che uno deve fare o no. Non ci rompessi i coglioni con Facebook, chiaro? Cosa c'entra la Boldrini con Facebook? Perché si occupa di Facebook? Me lo spieghi? Qual è il motivo? Non lo so. Il problema questo. È solo uno ed è molto semplice: che lei vive grazie all'odio. Esiste in quanto qualcuno la odia. Se nessuno la odiasse, lei non esisterebbe. Mi sembra molto chiaro. Se non ci fosse qualcuno che la odia e che scrive di odiarla, politicamente non esisterebbe. Di che parla se non dice ah, l'odio su Facebook, le donne odiate mi scrivono le cose? Non esisterebbe, non esisterebbe. Perché non introducete un'icona contro l'odio? Avete like? Mettete anche un'icona che, come dire, metta in guardia, no, sul fatto che quello è un messaggio d'odio. Cioè, io immagino i signori di Facebook, no? Sono di Facebook, i quali stanno ragionando come mettere l'icona dell'odio. Beh, ma tu, no, si stanno ponendo il problema su come chiudere, su come chiudere i profili. Davide, però bisogna si può dire che questa qua è una minchiata, il tasto dell'odio su Facebook. Ma è scusa, una puttanata. Ma può essere un'idea invece, perché così come chiudono, basta, ti hanno mai sospeso il profilo? Non ne posso, per ma uso non me di... ne fotto. Me ne fotto se mi sospendono il profilo, me ne frego. Facebook fa quello che vuole, che me ne frega di Facebook se sospende il profilo. Fermi. Io voglio sentire il traffico, avete capito? Il traffico! La zanzara. Dopo tanto tempo sono riuscito a convincere un mio amico ad ascoltare La Zanzara. Scarica il podcast, dopo 10 minuti scrive un messaggio e mi fa: ma è un puttanaio pazzesco. Allora, voglio annunciarvi Urbi e Torbi che questa sera avremo una cosa molto importante. Ovviamente restate incollati, perché per la prima volta un signore che è un rabbino, forse, sì, se riusciamo bravo, a chiamarlo, forse, bravo, cioè, bravo. Un rabbino parlerà. Vabbè, ma perché di dici sesso, la parola rabbino così? Sperma, masturbazione. No, vabbè, no, non solo di questo. Come no? Sì, certo, assolutamente. Un rabbino parlerà di sesso. Sulla questione dei misteri del mondo. Una cosa sulla subito fede. Te la voglio dire: ieri hai detto una cazzata. Cioè, che i rabbini, ci sono pochissimi rabbini pedofili. Sì, è pieno di rabbini pedofili. Rispetto, io lo paragonavo. Senti, rispetto mandato, ai preti. Mi hanno mandato, no? Dico, sì, la comunità più chiusa, siccome i rabbini hanno un rapporto col sesso come tutti noi, cioè normale, non c'è la castità, non c'è questo. Tu hai detto che non c'erano. Hai detto che non c'erano. Non mi risultavano, è pieno, magari di, Brooklyn, è pieno di rabbini. Ma pieno, cosa vuol dire? Ma pieno, ci sono un sacco di casi di rabbini pedofili. Ma pieno, che vuol dire pieno? Ci sono, ma come sì, in tutte le società, ci sono. Ma tu hai detto che non c'erano, dai. Statisticamente sono me. Guarda, non posso me ne dirti frega una... niente, posso... perché non sono un rabbino, io non mi interessa. Posso dirti una cosa, che sì, un mio amico, non posso dire chi è, ha detto che utilizzare la parola frocio è una cosa addirittura doverosa, perché tra loro spesso gli omosessuali si chiamano la frocia, il frocio, eccetera. Tra non si loro, capisce, certo, perché la signora Balivo, chiunque altro che non abbia il timbro dell'omofobia qua, dell'odio nei confronti degli omosessuali, non possa tranquillamente dire: peccato che sei frocio. Bisogna sdoganare definitivamente la parola frocio. Nessuno di noi odia i gay. Io sono assolutamente autorizzato a dire frocio e lo dirò sempre. Adesso basta con questa cosa gay, omosessuale. Prima gli omosessuali erano chiamati pederasti. Prima di essere chiamati froci, erano chiamati pederasti. Una cosa molto più grave, molto più pesante. Giulia da Roma, vai Giulia. Ciao. Oh, Dai. Ciao Parenzo, allora io chiamavo per la storia di Aldrovandi di ieri e di eliminare i porno. Di che? Di Adinolfi, che Aldrovandi? Aldrovandi è morto. Scusami. Aldrovandi, scusate. Quello è morto. Stavo cucinando, scusate. Che stavi allora, cucinando, scusami? Il riso col capri. Che è a 18.50, buono, scusami, cucini il riso. Ho capito, non mi stavo ascoltando, non sapevo che fare, mi sono anticipata la cena per dopo. Vabbè, 10, ma non è sbagliato. 7 meno 10, vabbè, così poi quando arriva il mio ragazzo la scaldo e basta. Quanti anni ha lei, Giulia? 32. E vive col suo fidanzato? No, vivo serenamente da sola. Ma lo sa, il fidanzato vorrebbe vivere con lei, però no? Non credo proprio, vive serenamente da sola. Perché non andate a vivere? Però non è che fate delle cose, queste porcherie che Cruciani sempre... Ma non è vero, ma perché adesso devi chiedere per forza? No, ho capito. Ma lui non è molto felice che ascolto Cruciani, perché dice che non capisce di calcio, però io Cruciani lo sento da 5 anni, quindi continuo. Però lei non ha mai messo le corna al suo fidanzato? Assolutamente no. Bravo. Che assolutamente e le farebbe, no. Vorrei capire questo, la classica domanda alla Cruciani: se lei trovasse il suo fidanzato con un'altra, si ecciterebbe come si eccita Cruciani oppure no? Ma è incredibile. Ma gli ammazzerei di botte. Siamo nella normalità. Ok, no, per capire. Ma che cosa invece banale, in questa di botte, siccome in questa trasmissione fanno passare alcuni Cruciani, Mercù, Poli, fanno passare per normale il fatto che comunque no, andiamo avanti con le no. Bravo. Io non ho capito, Giulia, non ho capito. Perché lo ammazzeresti di botte? Non ho capito. Perché? Perché ha tradito la mia fiducia. Mamma mia, questa cosa, tradire la fiducia. C'hai la voglia di scoparsi un'altra, magari ti ama lo stesso. Allora, mi poteva scannare e poi scoparsi l'altra. Ma perché? Perché si può restare insieme anche scopando un'altra persona? Qual è il problema? No, ma che schifo. Ma perché che schifo? Perché non ti piace il miscuglio dei fluidi? Il miscuglio, no, il miscuglio della umore. Allora, cioè, tra l'altro mi stavi Giulia. Dicendo che eri d'accordo con Adinolfi, che è abbastanza grave, dipende su sì. Che cosa, scusami. Sull'eliminare il porno. Bravo, ragazzi, tutto finito. Una ragazza di 32 anni, qui stiamo tornando veramente. Facciamoglielo spiegare, no, però, scusa. Tu sei per eliminare i siti porno, ma che cazzo dite? Ma che siete andati in Cina lo fanno, forse? Perché? Possiamo sentire perché? Perché rovina la sessualità. Avanti, esci fuori con questa roba, rovina la sessualità. Possiamo sentirla. Lo sapevo che mi avresti odiato. Allora, no. Sentiamo. Almeno renderli più difficili, perché allora brava, io sono della generazione giusto. Che ha iniziato. Ma ci sono tutti i modi oggi per farli. Ci sono tutti i modi. Ragazzi, se un ragazzino di 12 anni, 13 anni, purtroppo, ma è così, se uno ha 12 anni, 13 anni oggi vuole andare su un sito porno, anche se gli mettiamo tutti i blocchi del mondo, ci va lo però stesso. Posso dirti qual è la conseguenza, perché io sono di un'altra generazione. Qual è la conseguenza? Generazione che ha iniziato. Apriamo il dibattito sociologico sui siti porno. Allora Giulia, la domanda molto chiara è questa. Tu hai mai visto un film porno? Certo, immagino di sì. Mi piacciono pure. Continui a vederli? Ogni tanto? Cioè, scopi col tuo fidanzato davanti a un film porno? Ma no, che roba, no, ma che, no, se, no. Che ma cosa che, serve? Ma non hai vissuto nulla, te, non hai fatto nulla, non hai fatto niente. Non hai fatto nulla. Tradimenti no. Ma cosa serve? Ho tradito, a voglia, ma non questo di adesso. Vabbè, non questo di adesso. Avanti. Perché bisogna oscurare i siti porno? Avanti. Allora, secondo me vanno oscurati perché... secondo me almeno prima con i giornaletti col fatto che i video c'erano ma i giornaletti non esistono più cose... hai 32 Ascolta, anni non esistevano finire, già fammi finire prima no i miei compagni comunque alle medie avevano i giornaletti me lo ricordo poi vado al porno perché comunque ho 32 anni vabbè adesso non possiamo aprire il dibattito perché li vuoi oscurare spiegami li voglio oscurare perché il risultato è che sono tutti identici perché quello che li fai citare è quello che hanno visto a rotella quindi l'unica cosa che li fai citare quelle cose sono identici, ma è un copione. Sì, ma perché bisogna eliminarli? Non ho capito perché bisogna oscurarli. Perché non ho capito. Questa è la conseguenza, perché prima almeno con i giornalisti e le altre cose avevano uno sforzo di fantasia, erano le loro fantasie. Vabbè, non ti piacciono quelli, mi sa che sei poco informata perché c'è di tutto. Ciao, Lino da Lecce, vai, Lino. Ciao Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, Parenzo non è che dice poche stronzate, dice molte. Ieri sera non ho fatto in tempo di intervenire. I preti possono trombare perché i preti non fanno questo voto è buono, di castità è giusto. Non fanno voto sì. Di castità come fanno voto di celibato e non voto di celibato sì però io, amico mio è praticamente implicita la cosa se tu sei se tu no, fai no. Eh sì per forza perché se sei proprio cattolicissimo dovresti trombare solamente se ti sposi e siccome quelli là fanno il voto di celibato hanno il celibato dunque non possono trombare di conseguenza la conseguenza è questa amico mio è vero che diciamo a stretto rigore hai ragione tu però nello stesso tempo hai torto fermi lì io voglio wifi per sentire Zanzara. benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi dab. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. La Zanzara. Luciani, sei veramente una lurida merda. Ti ha telefonato sto poveraccio che probabilmente stava veramente nella merda e a cui le istituzioni non hanno mancato di fare rifilare altre fregature, e tu lo hai deriso, preso in giro e alla fine lo hai costretto torto collo a attaccare il telefono per evitare di essere ulteriormente umiliato da te. Sei proprio la quintessenza della schifezza, un uomo di merda proprio. Meriti e spero vivamente che tu finisca nella merda, all'angolo della strada a elemosinare con la gente che ti tira i calci in faccia e ti ride in faccia, perché sei proprio un uomo da niente, non vali un cazzo. Crociani, sei un pezzo di merda. Tutto questo per una telefonata di sera di uno che recitava a memoria le sue disgrazie di cui non capivamo nulla. Ragazzi, io devo condurre una trasmissione, mica è il ricettacolo delle miserie umane, eh. Cioè, uno ha chiamato ieri e recitava a memoria delle miserie umane, ma anche quello, però, quando hanno un minimo di, no, di, cioè, stava leggendo l'elenco delle sue disgrazie con le recriminazioni nei confronti dello Stato, non so di cosa, dai, su. A me piace Parenzo. Cos'è questa? La cosa? Aspetta, risentiamo un attimo. A me piace Parenzo. Ma perché lo dici così basso? Con questa voce così bassa? È una voce sexy anche. Chi è? È una, risentiamo un attimo. A me piace Parenzo. Ottimo, grande consenso. Parenzo, sei un depensante. Ecco un altro, la regia maledetta. Semplicissimo, se volete parlare dei filetti di merda di Sgarbi, o volete indicarci qual è il miglior combustibile per i rom, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800 24 00 24. Se invece volete parlarci delle emorroidi dei froci, o volete chiamare negro qualche profugo, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393 71 71 701. Siamo al top. Dalla vostra parte, Librandi contromarcato. Dalla vostra parte. Librandi è sempre lì. Ormai è praticamente con la sedia inchiodata a Rete 4. Sì. Contromarcato della Lega. Cioè, ogni tanto si ricicla, no? Si ricicla il duello. Cioè, Marcato, Librandi. Librandi contro, che ne so, un altro della Lega. Librandi contro Gasparri. E poi c'è un negro esatto, contro, sì, in genere, sì. Contro appunto quello della Lega di nuovo. Ah, roba incredibile. Quando è stato introdotto l'euro abbiamo risparmiato come interessi, perché l'interesse sui BTP non se n'è accorto nessuno. I brandi, stai zitto, non se n'è accorto nessuno. Premio Nobel delle salamelle, lasciami finire. A quanto siamo di debito pubblico? Fenomeno. L'interesse sui titoli di Stato era l'11% quando è arrivato l'euro, il 6%. Ci hanno propinato una vaccata filosoficamente. Se non vaccata, c'era Monti, non eri seduto lì a dire queste stupidaggini. Massacrato, perché non c'era più in Italia. Hanno capito? Massacrato centinaia di aziende, certo. E hanno la faccia tosta di venire qua ancora a pontificare. Ma la faccia tosta dopo cosa? Hanno fallito. Parlami di un economista della Lega, quello che ci capisce. A proposito, Mario Monti con il suo facce, lode, non toste, no, non era toste. Austerity. Poi a un certo punto arriva la piazza, caro Parenzo. La certo. piazza contro c'era Li Brandi. Il polettone, non lo so, c'era lo so. Il polettone. Senti, senti, Li Brandi contro la piazza di Milano. Il signor Li Brandi non so in che mondo vive, se su Marte, su della realtà, Plutone, al contrario di perché lei, non si rende, che vive nella fantasia leghista. Signor Li Brandi, lei mi faccia cortesemente parlare, certo. che io ho appena finito di lavorare. Venga a vedere la mia allora, realtà, io lavoro, produco, signor Li Brandi, per cortesia, gente. Si taccia. Io mi trovo con l'euro che sono con quasi le pezze al popò. Ma cosa sta dicendo? I dati sono tutti positivi. Perché l'euro ha rovinato veramente tutto il mondo del lavoro soprattutto. Siamo a abbiamo stagionato negli ultimi tre anni. Via dall'euro. Allora, da notare però la frase di Li Brandi che mi pare un po' eccessiva, eh? Tutti i dati economici sono positivi, ha detto il signor Li Brandi. Giustamente la gente l'ha un po' incazzata. Ha avuto un minimo di partita. Giacomo Torino, vai, Giacomo. Giacomo, dimmi. Pronto, buonasera. Dimmi, Giacomo. Allora, io volevo innanzitutto condivido tutto quello che dice Parenzo, al contrario degli altri. Sì. Beh, siete in tanti. Sì, però amico mio, non devi parlare col viva voce, col viva voce o con l'auricolare, altrimenti mi incazzo, chiaro? Perché ti incazzo, scusa? Perché mi incazzo se parli con l'auricolare? Mi incazzo perché si sente male. Si sente male. Allora, prendi il telefono in mano, ficcatelo vicino alla bocca e parla. Sono col cellulare. Sì, ho capito, ma c'hai il viva voce, l'auricolare, hai qualcosa? No, non so niente. Allora, non aspetto là, scusa. Ecco, adesso guarda un po', pronto? Sì, ti sento, dai, forza. Allora, voglio dire, lei, tu, non so se dai, lei sta dammi da tu, dai. Che sono assurdi, di odio. Sì, va bene, dare, sì, violenza certo. di odio. Può essere, sì, allora. Mentre Parenzo, sì. a differenza sua, sì. è molto più positivo. Non c'è bisogno di lanciare messaggi di odio in questa quali sarebbe il messaggio? Che già fa schifo da sola. Quale sarebbe il messaggio di odio che lancio? Quello che sta dicendo anche sulla Boldrina. Ha fatto benissimo la Boldrina. Sei d'accordo? Per me ha detto una minchiata. Che vuoi che ti dica? Ha detto una minchiata. Perché ha detto una minchiata? Perché è una cosa ridicola. Facebook non può fare nulla di tutto ciò. I messaggi di odio è una cosa è una schifezza, non ridicola. No. Voi dovreste vergognarvi. Lei si dovrebbe vergognare di quello che dice. Senti, amico mio, io non mi vergogno. Non mi vergogno di nulla. Allora, ci sono dei giovani che sì. sentono la trasmissione vostra, che cosa vuole che pensino? Allora, lei pensa all'odio che lanciano contro il bullismo, lei si rende conto? Il bullismo, adesso il problema. È il bullismo, del... è odio. Fa perché non facciamo, perché non facciamo il dibattito sul bullismo? No, perché lo prendi in giro? Complimenti a Parenzo che la stoppa ogni tanto e perlomeno riesce Giacomo, a... Grazie, Giacomo, due punti, Giacomo, lei istiga all'odio, ma quale istiga all'odio? Lei sta istigando all'odio. No, e poi tutto quando telefono quei disgraziati di sì. Mussolini eccetera a caso bisognerebbe bloccarli, stopparli, lo so, non lo è so. Più un mondo Giacomo, guarda tranquillo, siamo in tanti lo so, lui è una minoranza quella che ma chiama quest'odio, sì, è una minoranza, fidati, il grande popolo anche della è con me, è tranquillo, è una forza tranquilla, no, ma qui c'è un'altra è cosa. Una forza tranquilla positiva. Io non lo so, perché, scusate una cosa, a meno che non sia un teatrino che fate fra le due, ma non ci credo. No, ma quello è un criminale. Ma lui è un criminale. Chiaramente lo sai che, un criminale lo sai che Giacomo sembra briatore quando parla? Sembra no, io non briatore. Sono niente, io sono uno che faccio delle riflessioni, quello che dite, perché se è uno scherzo mi sta. Cioè, ma non è uno scherzo. Ma non ho capito questo, che problemi hai, non ho capito. Cosa abbiamo detto perché di così? Ci sono dei giovani che ascoltano tutte allora? Queste schifezze che dicono. E bisogna stopparle, bisogna guarda che stai sbagliando, perché il mondo va avanti già da solo con l'odio, con la violenza. Sì. Non c'è bisogno che anche voi li condividi, che ma lei cosa? In particolare. Ma tu cosa? Ma cosa condivido? Che cosa? Non condivido nessun odio. Al limite lo faccio emergere. Fai parlare sti disgraziati razzisti. Ma io faccio violenti. Parlare tutti, anche te. Cioè, faccio parlare tutti, persino te. Ma anche la storia della Boldrini, per esempio. Perché tu pensi di essere più degno di un altro che parla, non ho capito. Io non sono più degno di nessuno, allora, l'odio non va bene allora, a nessuno. Qualcuno se esprime odio ne risponde. Ma l'odio esiste, va fatto emergere l'odio, no, meglio che emerga. Va sanzionato. E c'è anche diritto all'odio, e c'è anche diritto all'odio, assolutamente allora, diritto all'odio. Che se non ci fosse stato il diritto all'odio, Hitler avrebbe fatto quello che ha fatto? Ma non c'entra niente, bravissimo, bravissimo. Voi volete eliminare l'odio, ma è ineliminabile l'odio. Eliminare, sanzionarlo. Andava nelle berrie di Monaco a seminare odio. E poi cosa è successo? Bravo. Cosa c'entra? Ma non c'entra nulla, ma io non ho fatto è esattamente così. amico mio, ma esattamente così. Giacomo, secondo te io istigo al razzismo praticamente? Sì, non mi istigo, no, per carità, è troppo forte, non, non quello mi permettevo. Quello hai detto. E non è che istiga, lascia, come dire, lascia passare questo messaggio come se fosse una cosa legittima. Sì, cosa? Cosa certo, che non l'odio, è legittima, l'odio, c'è il diritto all'odio, assolutamente. No, sì. Non esiste, non è vero. Non è vero. Questo è vero che non c'è. Io non ho detto che non deve essere sanzionato quando uno si sente offeso, uno va in tribunale, eccetera. Appunto. Questo non c'è dubbio. Ho detto che c'è il diritto all'odio, cioè ma non si può eliminare. Ma uno può eliminarlo con i segnali, con le cose. Lei è un giornalista laureato con una certa cultura, come fa a dire una frase del genere? Che perché c'è all'odio? Il diritto all'odio, assolutamente, come esiste l'amore esiste l'odio, è ineliminabile, per cui mettere i bollini dell'odio è ridicolo, che... ma il bollino dell'odio a che serve? I segnali, ma il bollino, è il bollino, è patetico, è già una società violenta, dobbiamo fermarli, cioè queste persone, sono dove andiamo a finire, cioè capisci? Io non dove andiamo a finire? Dove, ecco, ma perché poi ripeti? Ma voi perché ricalchi? Perché giovani, ripeti? Non pensa maturi come me, dai, che non gliele i giovani, cosa possono dove pensare? Andiamo a finire? Ma beh, che vuol dire? I giovani, ripetiglielo ancora. Cosa c'entra? Perché ripeti le parole? Perché no, devi perché ripetere le parole? Così, i giovani che sentono la zanzara. I giovani, hai ragione. I giovani si divertono. Massimiliano, si provincia divertono, di Milano. Ma possono pensare che è normale insultare i gay. Ma ad no, ma assolutamente. Massimiliano, provincia di Milano, dai. Ciao, buonasera, Parenzo, buonasera. Dai, cioè, dimmi, buonasera, avanti, Massimiliano. Allora, io voglio parlare qui di YouPorn. Ho sentito una ragazza prima che ha, con la quale vi siete un pochettino confrontati riguardo a questo tema. Allora. Ben inteso, adesso mi incazzo, che... adesso mi incazzo con la telefonata, adesso mi incazzo, adesso mi incazzo col viva voce oppure con l'auricolare, no. adesso mi arrabbio, adesso mi arrabbio, dai, sono forza. Con l'auricolare. Ecco appunto, vai a fare in culo, fermo, vai, lo voglio eliminare, non voglio più sentire questo qua, via, ciao. Oh ragazzi, da zingara non ci avrà voglia di fare un cazzo, però come lotta. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. Lo sa, pure Esther Benson ti ha dato una lezione di vita, quindi pensaci che magari sei te che hai visto insomma la vita in maniera sbagliata, pensa che appunto te stai sempre a parlare di mignotte, di sesso, di scopate, di qua di là, uno pensa questo scoperà 2-3 volte al giorno come minimo, e invece Richard Benson scopa più di te, cazzo, prendete tutti esempio da lui, da Benson. E questa è una vergogna, è una vergogna. Fausto Roma, vai Fausto. No, un momento, notizie che arrivano da Bologna, guerriglia all'Università di Bologna, la polizia sgombra la biblioteca occupata. Notizie che giungono nella giornata di oggi, devastata l'aula studio di lettere dopo le cariche degli agenti e le barricate dei collettivi. Ma che c'è? Scontri in piazza poco fa, rovesciati cassonetti, tavoli e sedie. Meraviglioso ragazzi, avanti tutta. Molte persone si sono rifugiate nei locali per ripararsi dal lancio di oggetti. Le proteste degli studenti sono nate dai tornelli che i potenti volevano mettere per regolare gli accessi in facoltà. Sostanzialmente è successo oggi a Bologna, meraviglioso. Mi segnalano che ci sono stati scontri e caos all'Università di Bologna. Gli agenti poco fa sono entrati in tenuta antisommossa e hanno sgomberato la biblioteca di lettere. Allora ordine ai compagni di Bologna all'ascolto: sto arrivando a Bologna per dare manforte a questa straordinaria iniziativa in cui è stata devastata l'aula di studio di lettere negli anni 60. Noi non solo devastavamo un'aula, ma devastavamo tutta l'università, veniva devastata perché gli studenti hanno il diritto a occupare gli spazi. Allora, molto bene quello che è successo, non spaventatevi, buttatevi per terra, disarcionate le sedie e buttatele fuori dalla finestra del quarto piano, vedrete che scapperanno come conigli quei poliziotti. Ma io sto arrivando sul posto, occupiamo l'università. Ma in che modo arriva? Col vitalizio? Col vitalizio, certamente. Dall'Umbria mi muovo con la macchina, arrivo TV a Bologna. Con i soldi del vitalizio? Senza ombra di dubbio. E do manforte ai compagni e alle compagne che in questo momento stanno letteralmente mettendo a ferro e fuoco la città di Bologna. Molto bene, formidabili quegli anni. Ma quali formidabili? Fausto, Roma, vai. Pronto, buonasera Cruciani. Dimmi Fausto, dimmi, questa è Capanna si inserì. Ma quel cielo broleso de Parenzo sta là, quel deficiente? Sì, è qua, è sempre qua. Chi sì. è questo signore? Buonasera. Fausto. Fausto de Roma, cretino. Fausto. Quello Fausto. Che hai detto 5 minuti fa, sei proprio un cretino, sei. È l'idiota. Tu lo sei un comunista di merda. Comunista però pagato. Con una M. Una sì, M basta, non comunista. Ce ne metto cinque, basta una. Sei un comunista di merda. Cos'è questo? 19:38? Ah sì, scusi, è l'angolo dell'idiota. Me devi far parlare. Sì, sì, sì, no, ma sono è il suo spazio, 19:38, l'angolo dell'idiota. I zingari e gli extracomunitari. Sei un comunista di merda. Con una M sola, una basta. Non mi domandi come mai a me non mi dici buonasera, tutto bene a casa? No, perché ancora non ho capito se ha una famiglia, se ha una vita sessuale attiva, mi pare di aver capito. Ma no, io ho una vita sessuale attiva, sì, c'ho una vita sessuale attiva. Povera. Ma come non mi dici dov'è tua moglie, come dici agli altri? Fausto, perché sei partito così incazzato nei confronti di Parenzo? Che cosa è successo? Perché è uno stronzo, Ma perché? È che ha fatto? Ma che ha fatto? Difende i zingari. No, ma non sono i zingari, si dice gli zingari in realtà. Romano, Cruciani, io sono romano, parlo come Mario. Appunto, gli zingari, no. 5 minuti fa ha dato contro le forze dell'ordine. Capito? Abbiamo dato immediatamente comunicato di quanto sta avvenendo a Bologna, dove dei ragazzi stanno occupando... Sì, però hai detto pure, montate le sedie fuori, così le forze dell'ordine scappano come conigli. Come conigli. No, ho detto semplicemente che negli anni ma, rimangio proprio nulla. Do istruzioni su, come fare la guerriglia urbana. Si chiama guerriglia urbana. Io non lo so a te chi te paga, capito? Io non lo so a chi Confindustria. Te paga. Ma tu, la Confindustria, pensa un po' che intelligenza che c'ha la Confindustria contro le forze dell'ordine. Un giornalista come era te, Capanna. Era Capanna. Era Mario Capanna, non era Parenzo. Io tanto Capanna che esce da dentro di me, non lo so perché era Capanna. Sì, prenda la macchina, vado a Bologna, vengo pure io. Ma non io. Lascia perdere. Ma lascia perdere proprio. Lascia perdere tu. È una trasmissione meravigliosa, sì. Basta che non dite le cazzate. Ma che meravigliosa, la trasmissione da chiudere, dai. Fausto, ma tu che c'hai contro gli zingari? Che c'hai? Io contro i zingari. I zingari io li... Abbiamo l'audio prenderei e li... Li devi sterilizzare. Ecco, una cosa molto moderata. Cioè, sterilizzare così. Sterilizzare i rom. Gli zingari. Devastata dalla guerriglia l'aula, confermato. Cruciani, non servono a cazzo. Stai dicendo gli attivisti hanno rovesciato. Intanto, momento, informazione in diretta. Gli attivisti hanno rovesciato cassonetti, tavoli e sedie, creando delle vere e proprie barricate. Spazzate via poco fa dalle forze dell'ordine. Messaggio a tutti i resistenti al momento all'ascolto dall'università qui è Radio Onda Rossa. Allora attenzione, le barricate devono essere molto alte per bloccare molto alte, l'accesso cosa? Della polizia Ma all'interno Fausto, degli studi. Attento, senti, abbiamo anche l'audio. Se c'è l'audio, ci andasse pure lui contro la polizia, contro i carabinieri. Stiamo andando ad occupare ovviamente con i compagni. Ma che cazzo vanno a occupare? Sei un celebroleto che vuoi occupare, che sei come la zanzara sei. Beh, ma non la zanzara della trasmissione, le zanzare che rompono i coglioni quando te li pensate. Ma come cazzo state messi? Allora, ecco, io non ho capito. Ecco Fausto, le urla della protesta che vi documentiamo Fausto, in diretta. Le io urla. Non ho capito. Diversi. Ma no, questi sono quattro coglioni, dai. Attenzione, Fausto, attenzione. Fausto. Ecco, vola di tutto. Stanno lanciando tutto, devastato tutto completamente. Negli anni 70 avremmo fatto molto di più. Va bene, Fausto, io non ho capito, ma gli zingari che cosa andrebbe fatto? Ma è vera questa notizia? Sterilizzati. Così fra 30 anni il DNA non esiste più, capito? Quello di dinosauri lo conservavamo perché erano gli animali che potevano essere buoni. Invece i zingari non servono a cazzo, la Cruciani, non servono a cazzo. Sono parassiti, sono ladri dalla nascita. sono razzisti loro contro di noi, si ligunetra, gunetra, muleva di mortacci vostri, ma... addossanno. Ma non lo so, Parenzo, di qualcosa però, no, signor cosa Fausto. Che dica? Sto seguendo in diretta. Parenzo chi difende? Ma Parenzo, chi difendo? Difende. Non difendo, ah, i ladri, stupido. Stupido Parenzo. Che non sei altro. Non difendo, ah, i ladri io. Stupido sono io. Sei oh, uno stupido, sei stupido. Ma c'hai un bagarozzi in testa, uno spiglia l'altro dall'altalena. Su bagarozzi. No, questa è divertente. C'hai due bagarozzi. C'hai un bagarozzi in testa, uno spiglia l'altro dall'altalena. Hai capito? Poi tu non fai, non pisci sotto la doccia. No, eh? Quello no. Non pisci, no, non lo fai. Io dovrebbe vedere, io vorrei essere la io te vorrebbe vedere. Vedere. Io te vorrebbe vedere. Tu non hai mai pisciato sotto la doccia. Ma vaffanculo. Ma io, ma che non l'hai mai io fatto? Ma io la faccio perché sul lavandino di casa tua. Pisci sotto, che fai? Esci dalla doccia e vai a pisciare cesto. Ma sei l'unica persona al mondo si fai una cosa del genere. No, siamo io il principe. Io il principe Carlo. Quanto è bello quando uno sta sotto la doccia e piglia. È una meraviglia. Ma no, che schifo. Io esco dalla doccia e vado a pisciare dentro la tazza. Ma che cazzo, ma chi lo va a raccontare, Parenzo? Ma tu so, sai che sei un celebro leso. Ma perché? Fatti a far curare, ma da uno bravo però. Ma che c'entra? Da uno bravo che conosci i bagarozzi. Senta, che c'è ma... Senta, signor Fausto, io non ho capito bene. Signor ma... Fausto, volevo capire questo. Lei, nella sua attività normale, di che cosa si occupa? Io sono autista. Autista. Allora, no, perché lei so che cosa è sposato? Sì, io voto destra, figurate un po', perché no, non sono andato lei d'accordo è sposato, con te. Ha una moglie. Sì, ha voglia di come no, come ce l'ho la moglie, come ce l'ho, perché una. Se ma scopo, no, si sta scopano l'altro di questo non lo so. Esattamente sapere. A questo volevo arrivare. Io le consiglio una cosa, francamente. Dimmi, ora sono le 19:44. Mentre lei è qui a cazzarare con noi e a insultarmi in diretta. Mi moglie sta scopando con qualche altro. Non uno. Non le uno. Posso dire, le posso garantire, non uno. Non ma uno. Sì, ma mia moglie mi porta i soldi. Sono in quattro! Sono in quattro più due che guardano e riprendono! Mi moglie mi porta i soldi, invece tua moglie lo fa gratis con qualche comunitario dentro qualche accampamento del stiamo avanti. Allora, sua, Fausto, però fermiamo questa cosa, con una considerazione finale. La considerazione finale di Fausto è questa. Fausto da Roma. L'epitaffio finale di Fausto è questo. Che considerazione hai dei migranti che arrivano nel nostro paese? Dei migranti. Quali sono le tue considerazioni finali sui migranti? Il telefono. Sono anni, io forse sono uno dei primi ascoltatori no, della ma i migranti, ma non è una cosa positiva i migranti tutti a casa loro ma come? Ritorno per taglio dalla testa. Ma in che modo? Perché l'Africa non ci sta tutta in Italia, se no si prendesse il Papa e si mettesse dentro al Vaticano, così non ci rompono i coglioni, capito? Grazie perché, Fausto, abbiamo trasmesso Forum Immigrazione Forum Integrazione. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da O'Clock. La Zanzara. Allora ragazzi, rilassiamoci un attimo, io non ne posso più. Non ne posso più, già sono in tensione, 19:46, manca più di un'ora alla fine della trasmissione. Voglio chiamare uno che sicuramente sarà incazzato con la Juventus. Come sapete, in questi giorni Juventus e Inter se ne sono dette di tutti i colori. Di nuovo questa roba qui del vittimismo dell'Inter, vittimismo dei tifosi dell'Inter contro la Juventus che vince. Capito Parenzo? Ne sì, sei a conoscenza? Ho letto, ho visto che anche il signore Il Cane è intervenuto. Il Cane ha detto che l'Inter praticamente non sa perdere. Esatto, ho seguito questa cosa. E dovrebbe essere anche abituata a perdere, ha detto. Devo il signor... dire, l'ho seguita senza nessun interesse, ma ovviamente sì, ho letto. Però ha a che fare con il sentimento profondo dell'Italia. Sì, certamente. Ha a che fare con le viscere profonde non dell'Italia. Non c'è dubbio. E noi proprio dalle viscere, da Bergamo, dove stasera fa uno spettacolo, il signor Andrea Pucci, grande interista, comico, cabarettista. Andrea, come stai? Ciao Giuseppe, bene, ciao, buonasera Parenzo. Come andiamo? Quanto ti sei incazzato per queste frasi del signor Elkan? Facci un tuo ritratto del grande padrone della Juventus che con questa sua voce così tenue, così morbida, così... È antipatico, adesso che mi dici che è antipatico, per te è antipatico, è normale che sia antipatico, ma dimmi cosa pensi di questa frase che ha detto, l'Inter non sa perdere eppure dovrebbe essere abituata. Ma probabilmente ha ragione, solo che noi quando facciamo la finale, anche se la facciamo ogni 40 anni, le vinciamo. Loro mi sembra che prima non ci arrivano e quando ci arrivano la perdono. La perdono, dici tu. Tu dici che ecco, alla fine il peccato mortale della Juventus è quello di non vincere in Europa. Però adesso da te vorrei una cosa. Quanto ti sei incazzato per questa frase, per il modo in cui l'arbitro ha diretto le operazioni nell'ultimo Juventus? Ti racconto che da quando lui l'ha detto che sto prendendo l'amaro medicinale Giuliani per il fegato, quindi ogni 2 ore prendo dei grandi cucchiai di amaro medicinale Giuliani per far sì che il mio fegato riprenda le funzioni normali. Addirittura. Dice delle cose forti, cioè contro l'Inter, cioè, è simpatico? Cioè se è simpatico allora... No, ma simpatico il signor Elka non può essere simpatico. Certo che mi sono incazzato, cosa vuoi? Io so perdere, ma voglio perdere con giustizia. Ha fatto una battuta. Non ho capito, c'è stato un furto secondo te? C'è stata una rapina a mano armata? Dimmi, come ti sei sentito rapinato? Come al solito, quando giochiamo contro di loro c'è sempre qualche episodio che è contro di noi. Ma è evidente, lo fanno vedere i video, lo fanno vedere i filmati, lo dicono... Sì, però amico mio, la realtà è che quando uno poi perde e non vince mai, soprattutto negli ultimi anni, non è che si può attaccare a rigorino all'inizio, a un altro rigorino dopo. Cioè, sono tutte robe piccole, no? Cioè, rispetto... tu mi vuoi stuzzicare, ma non so cosa mi vuoi tirar fuori. Ti dico soltanto che non è che mi attacco. Io mi attacco quando manca la giustizia. Se durante un episodio sportivo c'è un episodio che è poco giustificato dalla giustizia, mi incazzo, no? Cioè, perché deve essere così? Già sono forti abbastanza. In più ci devono mettere anche la parte arbitrale e un interista si incazza. E poi c'è una cosa che non prende in considerazione nessuno. Siccome c'è un sacco di gioco, di denaro anche, in giro per l'Italia. Cioè Scusa, ma che c'è l'auricolare? Scusa, stasera sono fissato. Che c'è l'auricolare, Andrea? No, sono in viva voce in macchina. No, togli sto viva voce, dai, su, amico mio. Se no mi incazzo sul serio, ora, pure con te mi incazzo. Va bene, vai. Almeno ti devi incazzare perché lo sai che con me le prendi. Ma che prendo, prendo. Attenzione, dai, scusatemi un secondo. Notizia del quotidiano Libero. Ottimo quotidiano. Foto di Elkan. Scritto Rampollo. Sì. Paparazzato a Milano dopo il caso del trans. Occhio, 2 punti. Sapete cosa ha in mano l'apo? Guarda, guarda, dei pesi. Ma come dei pesi? Porca puttana, ragazzi, ma come si fa a fare così? Dei pesi, uno apre e dice: è entrato in un negozio, ho comprato un paio di jeans e dei pesi per palestra. Ma se uno fa un titolo in cui mette paparazzato a Milano dopo il caso del trans, punto. Occhio, 2 punti. Sapete cosa ha in mano? Uno cosa dice? Cosa ci avrà in mano? Uno lo lega di là, fa della cocaina. Che ha? Che cosa ha in mano? Non lo so. Se uno. Uno guarda, apre, guarda in rosso, guarda. Uno apre, dice: acquista pesi e jeans strappati. È un articolo di un giornale. Sì, certo. Scusami Andrea, ma tu, anche tu come il signor Lapo, a te piace andare a trans, signor Pucci? Mai stato in vita mia. Etero e alfa 2000 per 1000. Etero alfa, cioè tu proprio nemmeno maschio talmente, alfa, cioè alfa. Ti fa quasi schifo andare con un trans, cioè ti dà un fastidio fisico l'idea solo non di andare. Mi fa schifo, ma no, probabilmente se uno ci va vuol dire che cioè che è un po' frocio, ma... è un po' gay. Ma no, non lo so, è una deviazione che io non ho. Le deviazioni sessuali ci sono. Tu per esempio credo che abbia un rapporto con Parenzo, si sa da un pezzo. Beh, no, ovviamente non si dice, ho dormito qualche volta con lui. Sì, è successo, cioè, però non abbiamo mai copulato, ecco, no, ma se ti fa star bene. Non dai, ci mancherebbe altro. Uno puoi fare quello che vuoi. Cioè, per te non ho capito. I gay non devono dare fastidio a nessuno, cioè non devono mostrare troppo, che ne so, non devono baciarsi, non devono mostrare. No, non ho detto questo. Ho detto, se tu vieni a casa mia con un tuo amico e ti vuoi fare l'amore in casa mia con un tuo amico, mi dà fastidio perché. Vabbè, certo, in casa tua sì, d'accordo. Che vuol dire? Cioè, se tu sei io. Ma anche con una donna ti darebbe fastidio, immagino, no? Cioè, se viene un mio amico con una donna che vuol fare l'amore a casa mia, esatto. No, mando via il mio amico e io mi tengo la sua donna. Però è una. No, perché i trans, molti uomini oggi sono attratti dai trans, no? Cioè sono attratti dai trans, il che è abbastanza curioso. Ma questo no? Lo dici tu questo? Ma molti uomini sono attratti dai trans. Lo fai passare come una domanda? No, facendo passare come una notizia ufficiale. Ma è così, ragazzi, molti uomini sono attratti dai transessuali. Andrea, è così. Allora, tu forse per primo, no? Perché no, ma uno la curiosità c'è sempre. Tu possibile che non sei curioso di questo essere alieno, di questo essere terzo, di questo essere diverso, no, di questa terza figura sessuale? No, no, no, no. non sei, non terzium sei, non datum, cioè tu non sei attirato, non sei attirato dalla doge da, una, da un signore con l'uccello e anche con le tette, con le sembianze da femmina. Ma no, mi sembra un caro interesse, non mi interessa. Non ti interessa questo essere alieno, questa terza figura, questa cosa così bizzarra, anche ne so. Allora te lo dico chiaro e tondo, mi piace la figa in un modo patologico. Okay? Patologico, cioè sei malato di figa, questa è la realtà. Cioè, sono malato di figa. Sei malato di figa. Ma questo qua lo comprendo, lo capisco, però uno a un certo punto arriva al top, deve, arriva diciamo a un certo punto di saturazione e dice vabbè, allora proviamo qualcos'altro, che ne so. Cioè, Nel momento in cui riterrò di essere saturo di figa, ti giuro, ti chiamo e dico, sai, ho provato un trave e so da Dio. Cioè, per adesso no. E quelli che ci vanno, secondo te, comunque sono un po' malati, sono un po' perversi quelli che vanno a trans. Cioè, secondo te. Non l'ho detto, non mi mettere in bocca cosa. No, per carità, ma io non ti metto in bocca niente, figurati. Assolutamente. Ho detto che. La convivenza fa male al sesso, secondo te? Adesso è un tuo cavallo di battaglia, questo qua. Racconta, dimmi un po' una. No, la convivenza è una distruzione. Io sono stato sposato a 18 anni con la mamma di mia figlia, che è una donna meravigliosa, ma non ci avevamo più, non si scopava più, cioè, c'era una morte. Esatto. Ora sto con un'altra ragazza che non conviviamo insieme, sto da 8 anni e funziona tutto alla lettera, perché lei ha condiviso con me il fatto di non andare a vivere insieme, quindi quando ci vediamo è perché c'è l'emozione di questo è buono, condividere un film, di fare l'amore, di stare insieme, cioè i viaggi li assaporiamo di più, il vedersi, andare a un cinema insieme, tenersi per mano. Ogni tanto qualche scopatina te la fai extra, diciamo, no? Qualche cosa extra, caro Pucci. No, perché se dovessi farla extra lascerei la... Ma non voglio fare il moralista, non la faccio, perché siccome sto bene... Nel momento in cui non sarò più bene, come ho avuto... Comunque, la convivenza distrugge il sesso. Cioè, la convivenza lo ammazza. Almeno che non gli crei dei giochi che non fanno parte di me, però ci sono quelli che per tenere la coppia solida e salda... Lo fanno. Senti, ma quanto sono ladri in casa Juventus? Dimmelo, le Juventus sono dei ladri proprio con la mascherina? Come li vuole la figura? Cioè, ladri è un parolone, sono dei farabutti. Dei farabutti? Ma dai, la Juventus è una banda di farabutti, dici? No, non è una banda di farabutti. Hai detto dei farabutti. Sono già forti, abbastanza. Non hanno bisogno di fare... Non hanno bisogno di avere vantaggi. Dei farabutti. Ma dai, su, ma sempre sto vittimismo. Ciao, André. Ciao, a presto. Ciao, Giuseppe, grazie, arrivederci. Però sulla convivenza non ha detto una cazzata, Parenzo, attento pure te, sulla convivenza non ha detto una cazzata, distrugge ogni tanto l'abitudine, lo stare insieme a contatto, distrugge il fluido, distrugge la chimica, distrugge... Adesso ci ragionerò, facciamo un forum anche su questo. Natania, dammi notizie da questo punto di vista, rassicurami che è tutto a posto, perché non voglio vedere disastri, ne vedo già tanti davanti a me, rassicurami, ne vedo già tanti. Mandami un messaggio e dimmi va tutto bene e mi rassicuro, sono più tranquillo perché sono molto attento alla tenuta psicologica di questo uomo. Posso dire che sei tecnicamente un cretino proprio, ma proprio tecnicamente direbbe Capanna, tecnicamente. Oggi un mio dipendente ha detto: ma come fa a piacerti Cruciani? Domani licenziato. La Zanzara. Oggi sono 5 giorni che porto le stesse mutande, ma la gente non lo sa, l'importante è lavarsi il culo 2 volte al giorno, è quello che conta, poi puoi portare le mutande anche un mese, ma che ne sanno la gente, ma cosa ne sanno? Adinoffi, magna de meno e tromba de più. Per cortesia, non dite cazzate, guardate che gli zingari hanno voglia di lavorare, si sbattono, si fanno il culo, fanno anche lavori pesanti e poi... Mamma mia, quando sono davanti a un campo rom voglio ridere. Parenzo, io ascolto Keith Jarrett, Bill Evans, Miles Davis oppure dei dischi di Bob Dylan e ti assicuro che li trovo veramente pallosi, mentre i Nani è uno spettacolo, è veramente una figata pazzesca. Quindi da adesso in poi nessun carabiniere sparerà più, perché non avrà mai la certezza che in macchina ci sia un'auto. E un bandito si sentirà ancora più forte, perché saprà appunto che il carabiniere non gli sparerà. Sapete cosa fa quel carabiniere dopo aver preso un anno di condanna? La prossima volta che si troverà di fronte a un reato del genere, si girerà dalla parte opposta e fa bene, fa bene! Giustamente la gente è incazzata dopo la condanna, anzi i motivi per cui hanno condannato quel carabiniere che ha sparato a gente in fuga. Un proiettile è rimbalzato, lo voglio sempre ricordare, un proiettile rimbalza sulla ruota, uccide uno dei ladri, uno dei fuggitivi, lo condannano a un anno di galera. Non sappiamo, non abbiamo letto le carte, non sappiamo cosa hanno accertato. Ho letto tutte le carte. Ecco, sì, non sparava all'impazzata. L'ispettore Clouseau. No, perché le motivazioni sono chiare. Se non ci sono le prove che dentro la macchina ci sono armi, non si può sparare, secondo il giudice. Bah, ragazzi, io veramente... Cioè, non so veramente dove andremo a finire. Secondo non so l'interpretazione della legge, evidentemente. Allora, Antonio da Roma, vai, Antonio. Non è che se uno è un ladro ha diritto di morire, Antonio, però. Eccoci, buonasera. Allora, io sono uno di quelli che quando trovo il parcheggio occupato è contento, perché così vi riesco solo per 5 minuti di più. Però ieri, dopo 5 minuti che ho ascoltato, ho spento per la prima volta. Perché sì, a proposito giusto dell'intervento che hai fatto sulla Balivo, prometto che non ho visto la scena. Io credo che voi avete fatto due errori molto gravi, fatti da voi, perché le fa qualcun altro, le frega un cazzo. Primo, mi sembra di aver capito che la Balivo ha descritto un movimento, no? Io non ho visto la scena che avrebbe fatto la signora con una mano. Dovevate stare sul fatto, perché non è irrilevante chiedersi se quel movimento l'ha fatto o non l'ha fatto. Perché Antonio, posso dirti che è una puttanata, stava scendendo dalle scale del palco, ha spostato la gonna, sotto non si vedeva comunque nulla perché era comunque bardata, non è che si vedeva la figa sotto, ragazzi. Eccolo. No, ma questa è la realtà, non è che si vedeva, non è che era nuda sotto. Cioè sì, era... ma lo stai dicendo oggi, non ieri quando Antonio, hai commentato qual è il problema se uno sposta un attimo il vestito per scendere dalle scale? Che cosa fa? Vuole mostrare le gambe? Che cosa? Dai. C'è un secondo tema, poi c'è un secondo. Ma chi se ne frega grave poi dei gesti così? Ma non è un gesto plateale per far vedere le cosce, non ha bisogno di far vedere. Secondo te questo è sufficiente per assimilare la cosa che ha detto la Balivo alle stronzate vere di chi dice quello? Sì, hai la minigonna, quindi lì secondo me. Se uno dice che non puoi parlare di privacy, è semplicemente un paragone, no? Se uno dice non puoi parlare di privacy, se vai vestita in quel modo e se fai un gesto di quel tipo, come ha detto la Balivo, uno può anche dire, no, è la stessa cosa. No, non può dirlo, perché no, non è la stessa cosa, sono due cose di gravità. Vabbè, ma certo, è un paragone che viene fatto, Antonio, dai, su, è un paragone. Morale, la Balivo ti ha chiamato, non so che vi siete detti, io non ti avrei chiamato perché ti ho dato calcio in culo per quello che hai detto ieri, tutto lì. No, ma io ho semplicemente detto all'inizio della trasmissione che ci siamo sentiti e lei si è un po' offesa, arrabbiata per quello che ho scritto, per quello che ho detto, punto e basta. Secondo me per come hai commentato la notizia. Sì, ma può darsi pure, ma io dico sempre quello che penso anche agli amici. Amadou da Roma, Amadou. Amadou, perché devi ripetere? Ma chiamo da Milano. Ah, chiami da Milano, bene, Amadou. Sì, tu chiamare da Milano, Amadou. Ma tu chiamare, chiama da Milano, Amadou, si chiama, perché devi sfottere tutte le volte? Non lo sto sfottendo, sto dicendo Amadou. Amadou, quando chiama Feltri, dice Feltri. No, invece Amadou, perché? E come mai? Vai, Amadou, dimmi. Sì, salve, buonasera. Volevo intervenire con gli immigrati. Sì, bravo, sì, fratello. Vuoi il tuo volere intervenire sui immigrati? Ma tu volere intervenire sui immigrati? Bene, ma no, ma non ti sto dicendo niente. Sto dicendo che vuole intervenire sugli immigrati. Mi scrivono Amadou, che bel nome mi hanno appena scritto. Allora, Amadou, dimmi, dai. Che vuol dire Amadou nella tua storia, dimmi, nella tua dimmi lingua? Amadou, che vuol dire Amadou? Dimmi, Amadou, forza. Sì, io quando sento qualcuno dire negro... Sì. Ma tu da dove vieni? Dalla Nigeria, dal Congo? Senegal, sempre come quello della spada di fuoco, eh? Sì, vabbè. Quando ti sento dire negro, sì, lo dici proprio per colpire. Ma quando mai, Amadou? Ma non dire stronzate. Bravo, Amadou, bravissimo Amadou. Io sono la persona meno razzista del mondo, dunque mi posso permettere di dire negro in maniera tranquilla, la parola dai razzista vista. Sei negro tu? Sei negro? Sei negro o no? Io sono nero. No, sei negro. Cioè, non è che sei nero, ma... sei negro, perché si utilizzava sempre la parola negro e uno può tranquillamente... D'accordo, questo è il tuo punto di vista, io sono d'accordo con te, puoi dirlo. Tranquillo, io ti dico negro, mica per dire sporco negro, negro di merda. Sei negro? Sai perché lo dice? Chi? Per colpire. Per qualcuno fare lo dice qualcuno. Per colpire, può darsi, sì, qualcuno lo dirà per questo, va anche bene. Uno pazzia. Come te, uno come lei, capito? No, come te, vuoi anche darmi del tu. Sì, sì, va bene, e poi un'altra cosa. Vi faccio veloce. Dimmi, si sento gente come Salvini. Che ne pensi tu di Salvini? Cosa vuoi che pensi? Dire l'Islam non è una religione. Sì. Veramente devo te. No, ha detto che è una religione di morte. Ha detto è diversa la cosa. Religione di morte. Sì, io l'ho ascoltato. Ma tu essere islamico? Tu essere islamico? Ma perché essere? Io sono musulmano. Tu essere musulmano. Come, ecco, io sono, ormai mi sono appassionato alla preghiera islamica. Allora, come preghi? Tu dici come tu dici Allahu Akbar. Come lo dici Allahu Akbar? Ma mandalo a quel paese, Amadou. No, dammi retta, ma dimmelo, perché è curiosa la cosa. Come lo dici Allahu Akbar? Oh, Amadou. Sì. Come sì. Dici Allahu Akbar? È curiosa anche la pronuncia senegalese, no? Allahu Akbar. L'hai detto giusta. Ma dillo tu, che mi piace sentirlo. Come quando preghi, tu preghi ogni tanto l'hai o no? L'hai detto proprio giusta. Come preghi tu? Preghi o no? Sì, certo che prego. E come fai? Come pronunci? Dimmi una preghiera, dai. Ma che preghiera ti devo dirti io? Ma mi una preghiera? Com'è che dici Allahu Akbar? Come lo dici? Sì, giusto. Ma no, ma dillo tu, come fa l'invocazione Allahu Akbar? No, ma come fai quando preghi? Allahu Akbar! Ma lo dici, ma chi c'entra? Sì, come... sì. Posso andare avanti adesso? Ma dimmelo però, prima! Allahu Akbar, sì, sì. Vabbè, dai, adesso non lo vuoi dire. Vabbè, allora vai avanti, su, non la fare lunga okay. Però, che mi vuoi dire? Quello Salvini lì, sì, quel Salvini lì. È meglio di fermarlo. È meglio di fermarlo. Tu con molta... Vedi, Parenzo, con molta... È un pezzo di coglione, perché è un pezzo di coglione? Sai perché? Gente con politici come lui, in Francia... Sì. Che andava in giro radio e televisione a dire male di musulmani. Che succede? E così stanno raccogliendo adesso. Un intelligente non può usare certe parole in TV radio. Sì, ma che dici? In Francia c'è la Le Pen che sta vincendo. Cioè, che no, parli? Io non sto parlando di Le Pen, altri gente politici. Per quello che è arrivato. Cioè, per te è un coglione, signor Salvini? Ma certo un coglione, uno non può dire certe cose. L'Islam non è musulmano, non una religione. Uno Allahu deve fare il suo politico. Akbar, politico devi dire così. L'Islam è religione di Bace, diceva. Chi è che diceva Bace. Questo? Di no, Bace. Il giorno che hanno ammazzato il ragazzo lì del Germania in sì, qua sì, a Milano, sì. L'ho sentito dire alla radio così. Ma L'Islam non è una religione, così l'ha detto. Sì, ma Islam è religione di Bace o no? Religione di Bace. A me, no, io sono musulmano 100%, a me non mi interessa, io non mi interessa proprio di venire e di dire Islam è così, Islam. Ad esempio si va in Senegal, cristiani, musulmani, sono come delle fratelli. Fratelli, vedi bene, sono come certo. Fratelli. Ma perché te lo giuro. Sì, va bene, l'ingenuità, la religione così, in realtà problemi. Poi viene utilizzata mia come moglie, mia moglie è italiana. Ah, tua moglie è italiana, questo è interessante. Quanti figli hai fatto con questa moglie italiana? Abbiamo due figli. Due figli. Ottimo, vedi, una due bellissima figli. Storia Beh. Di integrazione italiana. Abbiamo ottimo. Due figli. Grazie due figli. Per aver chiamato, è una bellissima storia. Ma di integrazione. Storia? Sì, e poi? No, e poi è una storia meravigliosa. La tua religione. Sì. Lei rispetta la mia religione. Vabbè. Ti bravo, no, vedi che bello. Lui è musulmano sì. E la moglie invece è cattolica. Che ne sai di cattolica? È una bellissima storia. Grazie, sì. Ma Amadou. Vogliamo altre storie, vorremmo, da qui a giugno, quando chiuderemo questa, a luglio, a fine luglio, quando chiuderemo questa baracca maledetta, forse anche prima. Tante storie come quella di Amadou che testimoniano che questo è un paese civile, è un paese dove si può convivere insieme, sì. Dove l'immigrato lavora, dove addirittura Amadou ha fatto due bambini che hanno dei diritti, vanno beh, nelle nostre sicuro, scuole italiani. Pubbliche. Vanno nelle nostre scuole pubbliche. Beh, che ne sai? Sono figli dell'amico Amadou e della sua adorata moglie. Questa bene. È l'Italia. Stefano grazie. Da Milano, vai, Stefano. Stefano. Eccomi qua. Dimmi, Stefano. Sì, dimmi. Guarda, volevo dirti questa cosa. Proprio Amadou Cascafagiolo. Amadou. Nel senso, prima un ascoltatore ha detto sì. Che tu sei quello che alimenta l'intolleranza. Secondo sì, me è il contrario, Cruciani. Secondo me tu sei quello che alimenta proprio la tolleranza. perché tu accetti chiunque, dal fascista al nero, certo, allo così, zingaro, al veneto. E invece Parenzo, quelli come la Boldrini, eccetera, sì, che alimentano il razzismo in questo paese. No, io odio gli intolleranti, sai com'è? Io invece odio gli intolleranti. Però, Parenzo, posso, cioè, posso il diritto all'odio è verso gli intolleranti. Capito? Capisco perfettamente. Capito, adorato? Ma dici anche perché tante cose sensate, non può sto essere, dicendo questo. Può essere, ma il mio odio, che non è odio, ma è battaglia, è lotta tu contro odi gli intolleranti. Dunque odi. Dunque, però odi. Odio gli intolleranti. Dunque in questo caso esiste, cioè, l'odio, esiste è l'odio, è legittimato l'odio. Chi è contro la legge, chi è razzista, che fanno, cioè fanno cose fino ad oggi contro la legge, hanno il mio disprezzo. Ma capito? In realtà no, Parenzo, posso dirti una cosa? Aspetta, c'è Carlo da Ferrara, aspetta Stefano, aspetta. Carlo, Ferrara, io vai. Io preferisco parlare di vagina, è molto sì, aspetta, però fammi capire bene, che non capisco niente. Apri un po', parla meglio. Sei sordo, Cruciani? Io preferisco parlare di vagina, che secondo me è molto più razzista. Di vagina? Di vagina. Di vagina, sì. Cioè, parla più forte, senso, avvicina, scusi, la bocca a quel cazzo di microfono. L'attinenza. Ma sei sordo, Cruciani? Allora, sarò sordo, ma è così, non sento poco. Che ti devo fare? Siccome devo sentire io, perché se non sento non riesco a risponderti, e la trasmissione non va avanti, parla più forte, per favore. Allora, io volevo portare la mia esperienza che ho fatto. Sei in viva voce, sei con l'auricolare. No, insisti. Non sono in auricolare. Vabbè, no. Carlo, vai, forza, dai. Vai, vai, vai. Allora, volevo portare la mia esperienza che ho fatto purtroppo con una ragazza. Mo ti richiamiamo, mi hai rotto i coglioni. Mo ti richiamiamo. Fermo là, fermo là che ti richiamiamo. Vai, Parenzo. A Washington, Melania. A Padova, Natania. La Zanzara. Ragazza è parenziana, mai una gioia, cazzo. Parenzo, quando avrai terminato tutti i culi delle care, ricordati che c'è anche quello di mia suocera. Che poi a Parenzo volete aver seguito il consiglio mio e si è fatto, si è praticato il cunnilingus subacqueo, Qua è un anno che aspetto una risposta. Cunnilingus subacqueo. Parenzo, amico mio, e andiamo. Parenzo, la vuoi sentire la voce della maggioranza silenziosa? Ecco, alla vai! Salvini pagato dall'Europa che dice che l'Europa fa schifo, non è un po' come Parenzo pagato dalla Zanzara per dire che la Zanzara fa schifo? Cruciani, manda il traffico che devo fare un po'. La Zanzara. Allora ragazzi, mentre alcuni hanno aperto una pagina su Facebook Puttan Tour con Don Andrea Contin, meraviglioso, noi abbiamo il telefono del signor Shlomo Bechor, rabbino di Milano, grande sì, esperto uno, di sesso. Uno dei rabbini di Milano, certo. Uno dei rabbini di Milano, grande esperto di sesso. No, io, grande esperto, è un grande... Ma perché devi dire? Grande esperto di sesso è, e ebraismo, ma di sesso tante, ed ebraismo. È un grandissimo rabbino, un grande studioso di Talmud, un uomo molto intelligente. Bene, che ci spiega... non essere questa, volgare però. In questa prima puntata sì, dedicata a questo grande bravo, tema bravo. Ci spiega questa prima puntata quali sono, come dire, le relazioni, cioè un rabbino sì, come si comporta rispetto a un prete di fronte al sesso, molto bene, molto di fronte bene alla masturbazione, di fronte al rapporto carnale con la propria moglie, quante volte tromba, come non tromba, eccetera eccetera. Sentiamo. Pronto? Eccoci, rabbino Bechor? Eccoci qua! Buonasera, come stai? Come stai? Tutto bene, grazie a Dio! Molto bene, bene, molto bene! Il rabbino di Milano! Certo, certo! Amico mio! Grande esatto, grande ascoltatore della Zanzara, bisogna dire, il signor Bechor, il signor Bechor. Quanti figli ha lei, signor rabbino? 11 figli. Come 11 figli? È 11 figli? Ma come fai a avere 11 figli? Come fai a mantenere 11 figli, Bechor? Ma cosa c'entra? Il mantenimento non viene mica dalla bravura degli uomini. E da che viene? Dai quattrini? Sei ricchissimo al mantenere 11 figli. Che c'è? Ecco, vedi, c'è casino sotto perché è pieno di figli. Forza, pieno di figli, 11 figli. Senti, qui dappertutto tutto, non preoccupate, c'è un po' di rumore, ma è normale. No, per carità, assolutamente. Allora, il signor Rabbino intanto di Milano. Intanto grazie. Grazie di che, Shlomo. Grazie di aver accettato di venire in questo in questo disastro, in ma questo come schifo. Come direbbe D'Agostino, grazie al cazzo, scusa. No, Rabbino, allora, no, Shlomo, la cosa che voglio dire, innanzutto Parenzo ha detto ieri una stupidaggine, l'abbiamo già detto. Cioè, la stupidaggine assoluta che cosa ho detto? I rabbini e la pedofilia, è pieno di pedofili non anche esiste. Tra i rabbini. Come pochissimo, non esiste? Vabbè, ma che pochissimo. Come tra tutte le categorie. Confermi, Shlomo, esistono i pedofili anche tra i rabbini, su questo non c'è dubbio. Non c'è nessun tipo di comunità che è completamente, purtroppo, salva da questa grande malattia. Ci sono meno rabbini pedofili piuttosto di preti, piuttosto che i preti. Beh, certo, questo questo ovvio. Beh, ovvio. Cioè, ovvio, perché i numeri lo dicono, è uno che ha una moglie, una famiglia. Comunque, la realtà è questa, che i rabbini possono avere una famiglia e... Cioè, e devono, anzi, è una grande... Devono avere una famiglia, non ho capito. Ma è vero che devono soddisfare sessualmente la moglie? Eccolo là. Certo. C'è un libro intero che è Kosher Sex, che parla di tutto e di più. E c'è scritto nelle carte... che il rabbino deve soddisfare la moglie. Tutti gli uomini, no, il rabbino tutti solo. Gli uomini, anche i rabbini che sono anche uomini, sì, devono seguire il codice, è un codice umano che è di accontentare la moglie. Bisogna sempre essere al top dal punto di vista sessuale, o no? Il primo libro che ho tradotto in italiano, ne ho tradotti più di 60, parla delle regole di rapporti sessuali anche. Oh, vedi. Allora? Sì. E c'è ad esempio una regola che dice che se la coppia, uno dei due coniugi, è ubriaco, sì, oppure hanno litigato, per esempio, non possono avere un rapporto sessuale. Perché? Perché non è che uno fa pace andando a letto. Bravo, bravo. Invece questo, il rapporto sessuale deve essere un qualcosa di elevato, di profondo. Bravo, non è uno strumento per fare pace, cioè discordia tra cioè, non ho capito, tu se hai litigato con tua moglie non hai mai scopato, scusami se te lo dico in maniera così cruda. Quella sera sì. Quella sera no. Cioè è proibito fare sesso quando uno litiga. Sì, oppure ci sono delle altre, diciamo, circostanze. Tipo? Dove uno, ad esempio, se uno è molto ubriaco. Ah, se uno è molto ubriaco, diciamo che sì, non può perché fare... Perché lui vede la moglie come se fosse uno strumento da sfogarsi. Cioè, la moglie non è come, non sono come due animali che vanno a letto così senza capire. Bravo. Deve essere un'unione, ci cioè deve essere una profondità, bellissimo, un sentimento. Secondo il rabbino non si può fare sesso così per sfogarsi e basta, no, ci vuole per forza il sentimento. No, consapevolezza, bellezza. Non si può fare il sesso in maniera animalesca, secondo il rabbino di Milano, non ho capito. Ma no, di Milano, in generale. Vabbè, secondo il rabbino, Milano. Secondo il rabbino Bechor, si può fare sesso senza sentimento? No, non è secondo il rabbino, secondo il codice di legge ebraico. Se una persona mangia, parliamo del cibo, solo per mangiare, per godere, non va bene. Uno deve mangiare per nutrirsi. Uno si unisce alla sua coniuge in maniera profonda. Se lo fa solo così, come un animale, no, non è questo quello che Dio ci ha prescritto. Sì, a proposito del valore, del significato del seme, tutto viene dal Talmud ovviamente, che è la Bibbia orale. Il seme è la cosa più importante a livello fisico, sto parlando. Cioè, che vuol dire? Cioè, la forza dell'uomo si trova nel seme. E allora? Se una persona lo spreca in continuazione, ad esempio, i medici lo dicono, che se una persona sta male, ha qualche sintomo di influenza, è indebolito, è molto faticato, non deve fare sesso perché il seme che lui va a sprecare va a perdere molta della sua forza. Ma scusa un attimo, la masturbazione è concessa oppure no? No, non è consentita, no. Bisogna capire che il seme è la cosa più importante che per l'uomo ha. Quando l'uomo si sa, però ti senti depresso, masturbati, fai sesso, come se fosse una cosa. No, invece bisogna essere valorizzarlo se vogliamo avere. Cioè bisogna sprecare poco seme, dici tu. Assolutamente. I cinesi, cinesi, il massimo per un cinese è fare sesso senza sprecare il seme. Ma scusami, come si fa senza sprecare il seme? Lascialo parlare. Cioè, tu dici senza venire mai. No, senza farlo uscire. Amica mio, praticamente senza venire, come fai? Adesso entrare nei dettagli. Tu riesci a fare sesso senza farlo uscire, tu rabbino? Ma se uno è veramente forte e riesce a dominare. Tu riesci o no? Voglio sì. Beh, se vuoi sì, amico mio, hai fatto 11 figli, non mi pare che te sei fermato. Ovviamente, se nella zanzara continuiamo a dire masturbati, vai, è tutto andare, via, eccetera, non c'è nessun valore del seme, ovviamente questo porta una cultura sì. che danneggia esatto. l'uomo. Danneggia l'uomo. Sì, Cruciani, infatti danneggia l'uomo. Perché indebolisce. Sì, indebolisce, è vero. Posso chiedere una domanda io? Dimmi, certo, dimmi. Certo, Rabbino. Allora, Rabbino, c'è una bellissima ragazza che ti piace tantissimo. Sì. Però quella sera lì hai avuto una puntata di Zanzara molto pesante. Sì. Non ti senti in forma a livello fisico, senti qualche sintomo. Sì. Cosa dai preferenza? Sì. Al valore del tuo corpo, alla tua salute? O al tuo uccello, scusami, detto proprio no, per no, fare no, ma benissimo. Cruciani apprezza molto. Devo dire la verità. Sì. Spesso faccio prevalere l'uccello. Sì, ecco, spesso appunto, anche stanco. Ecco, allora io sai cosa dico a queste perché... persone? Senti così. L'ho detto al nostro amico Parenzo. Cosa? Chi ragiona con l'uccello non ragiona col cervello. Bravissimo. Vabbè, no, ho capito, però. Bravo, allora il cervello far... non c'è più, non funziona come deve funzionare. Ma il cervello Dio ce l'ha messo in alto e sulla testa perché deve dominare il resto del corpo che sta in basso. Prende l'uccello, lo metti in alto, allora metti l'uccello al posto della tua testa e metti la testa al posto del tuo uccello. Questo vuol dire ragioni in quella maniera. Non mi direi che tu non ti sei mai masturbato, Rabbino. No, ma che c'è adesso questo? Mai in vita mia. Ma non è possibile. E mai lo farò. Ma non bravo, è possibile, bravo, dai, ma su. Ma come, ascolta, intanto è un autore. Perché adesso. Ma non è possibile. Mi sembra una cosa troppo razionale. Hai un controllo assoluto sul tuo uccello, allora? No, ma non no? Sulla mia bocca, sul mio uccello, sui miei pensieri, cerco di controllarmi. Ovviamente per sprecare il seme e masturbarsi non c'è bisogno di un controllo, bisogna non essere idioti. Ma no, tutti quelli che si masturbano sono idioti allora. Ma no, hanno poco controllo, dice. Hanno poco controllo di sé. Io prima di tutto non lo spreco. Partiamo dal presupposto che non va sprecato. Cioè è soddisfatta tua moglie, sì o no? Mi pare di sì. Se è ancora sposata con me, mi sa di sì. Quante volte lo fai per soddisfarla? Oh mamma mia, ma questo non lo può dire. Questo è in base alla legge ebraica, dice una volta alla settimana. E tu? Ovviamente uno deve trovare un equilibrio. Quelli che lo fanno ogni giorno sono veramente un po' malati. Ecco, bravo, molto chiaro, molto divulgativo, caro Parenzo, no? Beh, ottimo. Allora io direi una cosa, una cosa, siccome siete molto bravi a far ridere, volevo innanzitutto dire che il Talmud dice che la cosa più bella e più importante al mondo è fare ridere le persone. Questo e è importante. Tengo sì. molto a fare ridere, a raccontare qualche barzelletta. Che barzelletta vuoi raccontare, scusami? Allora, una signora a Napoli si trova sull'autobus, all'improvviso salgono due rapinatori. Fermi tutti, questa è una rapina. La signora in fondo all'autobus non capisce, tutta spaventata. Che è successo? Che è questo? Gli dicono, sono saliti i rapinatori. Ah, che spavento, dice la signora in fondo all'autobus. Pensavo che fossero i controllori. Signor rabbino napoletano. Un genio. Cosa incredibile. Un genio. Arrivederci, rabbino, alla prossima. Grazie. Arrivederci. Ciao. Shalom, Rav. Shalom, un abbraccio. Abbiamo trasmesso la prima puntata, prima puntata delle lezioni di sesso. Non so se ci sarà una seconda. Ti è piaciuta questa mia idea? No, mi stanno scrivendo tutti. Il rabbino e il sesso. Ragazzi, il seme sprecato è la cosa più eccezionale. L'uccello spiegato dal rabbino. Ma no, ma è un rabbino. Ma tanto gli davi del... non si capisce perché gli davi del tu. Dagli del lei al rabbino. Rabbino, ma come del lei. Sì, è un maestro. Ma scusa, gli parla del di uccello di sperma, gli do del lei. Ma che c'è? Gli dai del lei, perché tu dai del tuo a tu. Gli dai del lei. Scusi, signor rabbino. Sì. Rabbino, ma come ti rivolgevi a lui? Ma che discorsi sono? Grande Shlomo Bechor, grandissimo. Walter Lecco, vai Walter. Forza. Io non ho. Dai. Walter. Sì, io avevo chiamato per parlare di pornografia. E parla di che te pare, di quello che te pare. Ma dopo le cazzate del rabbino, con tutto il rispetto, davvero. Cioè, certe minchiate non si possono sentire. Ma quali sarebbero le minchiate? Eccolo qua. No, però diciamo subito. Io voglio dire una cosa. Il rabbino dice la sua, è un rabbino, rispettatelo, perché ha detto delle cose che riguardano la sua religione. Bravo, dunque, rispettatelo. Quali sono le cazzate? Scusa, Walter. Allora, premesso davvero, con tutto il rispetto. Quello non si è mai masturbato. Che ti, allora, che devi per fare? Me tutte le religioni monoteiste sono delle grandi minchiate. Non ce ne frega niente. Nello specifico non si può dire che fa male masturbarsi o disperdere il seme, ma non è vero, è una cazzata. Ma se uno dice che è convinto di questo, lasciaglielo credere, che ti frega. Sì, che ti fa del male? No, ma lui ti ha spiegato, però, ma questo è colpevolizzare. Lei è proprio stupido. Ma no, ma nessuno ha colpevolizzato niente. Ragioni sulle parole. Lui dice di dare valore alle cose, che dice non. Beh, sì, ha detto che non si è mai mai masturbato in vita sua? No, ma perché ti insegna il controllo umano, cioè non avere il controllo di se stessi, della propria bocca, quindi anche delle parole che si, perché la parola può uccidere secondo l'ebraismo, se vabbè, tu usi delle brutte c'entra, parole. Adesso, dai. C'entra, perché lui ti ha insegnato il controllo, che la Torah ti insegna il controllo della però, persona. Scusami, Walter, senza voleva... stare legati agli istinti. Vabbè. La gente che chiama qua sono delle bestie, chi chiama sono Walter, bestie. Tu hai mai visto un porno in vita tua? È vero, ecco. La stimo, però in questo caso io non capisco perché bisogna colpevolizzare un'attività che alla fine invece è sana e non fa male a nessuno. Cioè, ma tu ti masturbi davanti ai film porno ancora? Quanti anni hai? Ma assolutamente sì, a quanti 40 anni. A 40 anni fai benissimo. Vedi, mi stanno scrivendo tutti. Nonostante il rabbino, idolo indiscusso, vive cambiare. I rabbini, cambio religione, dice Emanuele. Non su cambiare, Twitter. Non cambiare mai. Continua, non dare retta al rabbino, fatti i cazzi tuoi. Chi ragiona con l'uccello non ragiona col cervello. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Perché nessuno mi ha detto che Zucchetti fa software anche per grandi aziende? La Zanzara. In ufficio, open space, 20 persone, io fischietto e dall'altro lato sento, mi alzo, chi è lo zanzaroso? Si palesi, si alza uno dal fondo, amico mio, siamo al top. Allora, mi segnalano, caro David, che la tua amica Francesca Ciauchi. Francesca Immacolata Ciauchi. Immacolata Ciauchi, che autore, è quella. La papessa, dai. La papessa, quella che ha trafficato, diciamo così, su documenti vaticani. E il signor Paolo Liguori, sì, direttore di TGCO24, se ne stanno, sì, dicendo di tutti i colori. Dopo aver partecipato a una trasmissione su TGCO24 in occasione dell'uscita del libro, hanno litigato. Liguori le ha dato della ladra di documenti. E lui e lei di tutto, pagliaccio, verme, sfigato, patetico, signor nessuno, fallito, fantoccio, pappagallo, giornalistucolo, poveraccio, amico del belinaro, se ne stanno dicendo di tutti i colori, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Tu ovviamente vorresti buttarti a capofitto. Beh, in questa, sì, vicenda. È troppo, no, tardi oggi, è troppo tardi. Sei dispiaciuto, tardi, vero? Giuseppe D'Alecco, vai, Giuseppe D'Alecco. Sì. Buonasera. Dimmi. Niente, volevo dire solamente che il rabbino ha esordito dicendo, sì, sì, che in tutte le parti del mondo, sì, c'è quella malattia. No, ha parlato, ha detto che in tutte le parti, no, del, no, mondo, no, in tutta, no, la, in... ha detto. Sì, ma la pedofilia, non l'omosessualità, la pedofilia. No, no, parlava dell'omosessualità. No, la pedofilia. No, non hai capito pedofilia. Un cazzo, Giuseppe, non hai capito una mazza, dai. Vabbè, comunque, a parte quello, volevo anche dire che sto rabbino qua o ha fatto solo 11 figli, ha scopato solo 11 volte. Ma saranno affari suoi quanto ha scopato, scusami. Ma anche, no, ma anche masturbarsi, scusa. Ma è se una non cosa si vuole masturbare. Ma ti ha spiegato ma, che... Ma adesso no, ma da ragazzino è uno stimolo che viene e a non tutti, si sarà è la natura. Ma ho capito, ma hai ragione. Ti io insegnano ti a controllare te stesso, ti insegnano lo studio della Torah, ti insegna anche a controllare i tuoi impulsi, i tuoi istinti. Tu non riesci a controllarli. Lui non riesce a controllare allora, neanche il suo cervello, perché ascolta, in base a quello che dice è evidente che non riesce a controllarli. Giuseppe, tu ti masturbi ancora? Quanti anni hai, scusami? Allora. Ecco, vedi, mi ha scritto un'aggiunta il Rav. In questo momento che sta ascoltando la trasmissione, il rabbino Shlomo Bechor mi ha scritto: se il Signore Dio ci ha dato la moglie per vivere bene e procreare, sì, è stupido inventarsi cose vuote, cioè attrezzarsi con altro. Capito? Ma che c'entra adesso questa ma come qua... che c'entra adesso non... la parola del rabbino non si può discutere. No, è vero, hai ragione. No, cioè, si può discutere, anzi, perché l'ebraismo. Giuseppe, io non ho capito, tu ti masturbi ancora o no, Giuseppe? Ma come tutti, come te, come parento. Ma no, ma io no, ma adesso posso confessarle una cosa? Tu non ti masturbi secondo me, vediamo. Ti masturbi o no? Parenzo, no, ma non c'è nessun parla che non parlo di cose personali, ma non c'è nessun bisogno di ricorrere ad artifici singoli, personali, ad artifici personali. Stai facendo una confessione. Volevo dire un'altra cosa, Parenzo, scusa. Ma stavi facendo aspetta, che aspetta, non c'è. Giuseppe, ragazzi, ma comando io qua. Fermi, fermo lì. A lamentarti, sto programma qua, sto programma là, ma che gente chiama qua, su, giù, ma però sei sempre lì, come mai? Sì, ma lascia perdere questo. Ti masturbi ancora o no, Giuseppe? Io questo voglio capire. Ma mi interessa. Ci mancherebbe, sì, ma Parenzo, ti masturbi fa? O no? Ma io, ciao, adesso in questo momento alle 20:39 segui i precetti tre volte al giorno. Giuseppe, stai zitto un attimo. Segui i precetti del rabbino, sì o no? Davide, questo ah, no? Certo che sì. Io segui i precetti del rabbino. Dunque, non lo vuoi dire esplicitamente, ma non anche tu non vuoi disperdere. No, il tuo non segno. Ne ho, ma non per quello, ma non ne hai ho, bisogno. Bene, non ne ho l'impulso. Non ecco. Ne hai l'impulso, per carità, ma nessuno dice il contrario. Dunque, tu da quanto tempo succede questa cosa? Anni. Dici a me? Sì, a te, anni. Ma adesso nel dettaglio ne ho 40 da qualche anno segui i precetti del rabbino ma no, ti spiego una cosa diversa, non è che segui i precetti del rabbino Becor, tutt'altro, non è, lui è uno dei miei rabbini di riferimento sicuramente, ma non è per quello, sì. Perché come lui ti ha spiegato, sì. Se tu hai una vita normale anche non lavorativa, senti il bisogno della masturbazione, no, ma appunto anche lavorativa e ci arrivi la sera stanco a casa, no, ma questo ma per carità, ma è legittimo, è una follia secondo me, però è legittimo, per ma che mi metto davanti alla televisione, guardo ma magari quinta questo? Colonna, cioè, ma guardo dalla vostra parte. Allora, sciocca la zanzara, Parenzo, non mi masturbo più. No, guardo dalla vostra parte, che è la cosa più grave. Parenzo. Capito? Chi è questa qui? Una. A me piace Parenzo. Ma chi è però? Carlo da Milano, fammi sentire. Carlo da Milano. Comunque la trasmissione che è sempre più in basso. Guarda. Carlo, vai. Siete mitici, veramente. Dimmi Carlo, cioè, dimmi. Siete veramente fantastici. Grazie, amo grazie. Totalmente Giuseppe Cruciani, anche Parenzo. Insomma, vabbè, adesso però non i complimenti non ce ne frega niente. Dai. Nulla, nulla no, di no, niente. Ma veramente. Ma poi Cruciani basta parlare di masturbazioni. Di un sacco ragazzi, di però ha parlato il rabbino stasera. Eh? No, ha parlato il rabbino. Ma non è che, lui a te ha parlato. Tu l'hai interrogato solo su quello. Non è che il rabbino. Ha parlato il rabbino. Non ma è non nasconderti dietro il rabbino adesso. Tu gli hai chiesto solo quello. Nella nostra lingua pugliese il rabbino è normalmente una persona piuttosto maiala e porca che fa come si cose, permette quindi... questo? Perché scusa, non ho capito. Perché ma i rabbini che conoscete sono tutti porci maiali. Non conosce nessuno lui. Non conosco neanche io. E allora perché dici che è un porco? Scusa, perché sono no, porci? Per dire una persona rabbina, una persona. Ma che c'entra? Rabbina beh, si dice. È roba razzista nel gergo si dice rabbina, cioè tirchia. Uno diceva, quando ero ragazzino, mi che sei un rabbino. Appunto, cioè... nei luoghi comuni, i razzisti si dice ma così. No, certo. Non è razzismo. Ah, neanche quello. No, benissimo, no, quello. Non è razzismo, dai, non è razzismo. Beh, assimilare la religione ebraica alla tirchia non è razzismo. No, dai, ma quando uno dice, ma che non sei un rabbino. Non è lo stereotipo classico della difesa della razza? Io non lo dico più. Non è lo stereotipo classico. Beh, lo dicevi perché vedi che è talmente un luogo comune. Ti dico la verità, io quando ero ragazzino. Ma non lo dubbi che anche tu cadessi in questi stereotipi? No, si diceva, ma che fai il rabbino a Roma? No, si diceva. Ma che brutto, sei un rabbino. Appunto, sì. Classico stereotipo. Quando me lo dicevano, quando lo dicevano anche a me, quando ero al liceo, alle medie, come battuta, quando lo dicevano rivolto a me, lo dicevano in generale, tu perché sei ci più rimanevo sensibile. Male. Tu perché sei perché più dicevo, sensibile. Ma è una stupidaggine, perché è un luogo comune. Sì, ho capito, sarà un luogo comune, come però dire non mi sento di tirchi, cosa non mi vera, sento peraltro. Se uno dice sei comune, ma che fai il rabbino? Cioè, è un modo di dire per dire che fai il tirchio. Un modo di dire però cattivo. Vabbè, ma non era cattivo, non c'è no, nessun razzismo. Buono, allora, vabbè. No, non c'è razzismo in niente. Allora non vabbè, esiste Carlo, razzismo. Carlo, cosa vuoi aggiungere, Carlo? Giuseppe, tu parlavi sempre di fighe. Io tra l'altro ho fatto un viaggio. Ma non è vero, poi è una vita che non parliamo di figa, ragazzi. Beh, non è vero. Ma non è vero, è una vita che non parliamo di sesso e di figa. Succede negli ultimi giorni qualche volta perché la gente ci spinge a farlo. Perché c'è il rabbino. C'è stato il rabbino che ha parlato no, di masturbazione. Non ragazzi. Nasconderti di. No, questo non te lo permetto. Perché tu l'unica cosa che hai chiesto al beh, maestro. Certo, che gli chiedo, scusa. Al maestro, potevi chiedergli altro, potevi no, chiedergli del tema della felicità, del tema della risata. Lui aveva tanti temi e ha tanti temi che vuole trattare con ma noi. Ma sei lui che tu, voleva parlare di sesso? No, tu da cosa sei partito con lui subito? Allora rabbino, ti masturbi, ma che modo di fare è? Ma che non c'è niente da ridere, che lui ciao, è una persona Carlo, simpatica. Ciao ma... Carlo, ciao. Vabbè ragazzi, ritorno alla zanzara del senatore in procinto di partire per l'America per incontrare forse Donaldone Trump, Antonio Razzi, buonasera. Ah, aspetta un attimo Antonio, scusami, colgo l'occasione per dirti questo, scusami, io voglio venire con te in Corea, no, in questo viaggio. Ma chi se ne frega però, no, scusa, ogni voglio... voglio venire con te in Corea e fare la diretta della radio dalla Corea. Beh, quello sarebbe quando buono. Vuoi, sì. Il 12 aprile si parte. Allora, no, scherzi a parte, io il 12 voglio essere convenuto. Facciamo una cosa, adesso sì. Non si può annunciare, poi ne parliamo in privato. No, vado in, no, no, vado in Corea. Fatti coraggio. Cacciare dalla Corea, bellissimo. Fatti cacciare dalla Corea, parlando male ma dalla Corea. Adesso, scusa. Sì, sì, infatti, devo stare tu zitto. Devi, io vado in albergo. Devo tu stare zitto. No, quando sono in albergo, zitti, quando sono in albergo, tu mi fai le domande. Io comincio a parlare della Corea. Domande, se il telefono non allora, funziona. 12. Tu non hai capito ancora che non ci sono i telefoni, non funzionano i telefoni. Ma ci sarà un telefono fisso? No, non si può fare. Non si può fare diretta alla Zanzara perché giustamente il signor Kim. Ma non è vero. E come no? Non si può fare. Ma se io vado col mio cellulare, non mi chiamo. No, ma non si può. No, stai fresco. Silenzio per 3-4 giorni il tempo che stai lì. No, ma scusa, non ho capito. Ma in albergo. Sento lo squillo del telefono. Non ho capito, ma se io sono in un albergo lì e lui mi chiama al numero fisso dell'albergo, non posso parlare con l'Italia io? Ah, allora sì. Adesso vediamo. Adesso vediamo. Cellulare no. Allora, domani parti per gli Stati Uniti, giusto? Sì. Anto, giusto. Allora, io credo andrò, la notizia io comunque andrò con Razzi in Corea. Vabbè, ma chi se ne frega? Adesso succede ad aprile. Allora, vieni in America, vieni in America che ti diverti, dai. Allora, Anto, io voglio capire una cosa. Si può riadattare secondo te la canzone, quella che hai fatto fammi canta la canzone lì per la tua partenza in America? Quella si potrebbe un po' arrangiare, diciamo un arrangiamento musicale alla Razzi. Facciamo partire, dai, facciamo partire il sottofondo musicale. Cioè, la canzone ve la ricordate, quella famosa di Razzi, no? Per cui voleva andare a Sanremo, poi l'ha fatta, eccetera, eccetera. Che è sto rumore? Fermo. No, è un articolo di giornale importante sull'immigrazione. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Cioè, allora, Anto, vai, partiamo con la musica di sottofondo. Aspetta. Caro amico Donald, per te sono partito. Sei stato eletto presidente e come me tu piaci alla gente. Poi il muro hai minacciato e io rischio star fregato. Caro amico, te lo dico da amico e fatti i cazzi tuoi. Fammi basta, non me blocca. Io sono italiano. Te lo dico da amico, Donaldo, io sono, non sono iraniano. Fatti aiutare con la Corea di alleati. Beh, c'è da lavorare sopra, sulla seconda parte. Seconda parte. Dunque, facciamo il ritornello bene. Fammi passare. Passa, che... Non me blocca. Io sono... italiano. Te lo dico da amico, Donaldo. Non sono... Io non sono un iraniano. Fatti aiutare con la Corea, te devi alleare. Capito, Parenzo? L'idea c'è. Fammi la realizzazione è agghiacciante. Arrangiata sul momento. Fammi passare, non me bloccare. Fammi passare, non me bloccare. Io sono italiano, te lo dico d'amico. Io non sono di certo iraniano. Fatti aiutare perché tu vai là e cercherai di incontrare Trump, o no? Sì, io ho fatto una lettera a chi? A Trump? No, non l'ho scritto io. A chi l'ha scritta? Come quella di Totò a cosa? No, come quella di Totò al film là. No, io ho scritto una lettera in inglese a chi? Figurati. Al presidente degli Stati Uniti d'America. Scusami, Ronald ma chi l'ha scritta? No, è Donald, non Ronald. Donald Trump. Donald. Sì, Donald, no, Ronald era l'altro, Reagan. Ronald Reagan, sì, intentandomi alla capoccia si confonde. Si confonde. Io voglio capire una cosa. Tu hai scritto questa lettera in inglese, ma è curiosa questa cosa. Ti sei messo a dettare a uno che scriveva in inglese? Beh, sì, chiaro. E chi era questo signore? Chi era questo signore? È un mio che collabora con me, si chiama Gracian Giampaolo. Questo non è importante. Uno che ha scritto in inglese questa lettera a Trump. Che c'è scritto in questa lettera a Trump? Gli ho detto, siccome io vengo in America dal giorno 10 sera... punto e virgola, due punti. Sì, vabbè. E abbondiamo. Siccome, dice caro Presidente, nella campagna elettorale hai detto che vorresti riallacciare il colloquio con la Corea del Nord, punto. Io sono qua, punto e virgola. Io, se vuoi, ti faccio da c'è posta per te. Cioè, Io se vuoi ti faccio da c'è posta per te. Io da penso postino, anche, da posti, ma è abbastanza chiaro anche come io, per Trump. Vado ad aprire lì, sì, io poi, siccome vado ad aprire lì, punto, punto e virgola. Portare una missiva. alternativa al presidente della Nord Corea, sì, io gliela porto. Se vuoi, io sono qua. Se vuoi, io sono qua. La situazione è già non c'è talmente problema. Aspetta, ma come hai chiuso sta lettera? Punto, punto e virgola, due punti, punto esclamativo. Come hai chiuso? Ma ho chiuso con o ti piace, o non ti piace. Queste lo prende, queste. Ma che come ha tradotto in inglese quello là? Scusa, spiegami. No, ma esiste per davvero? Non stiamo scherzando. Esiste davvero sta lettera? Come no? Come no? E l'ho mandato? L'ho mandato. Sì, ma ti ha risposto o no? Mi ha risposto l'ambasciatore dicendo che e cosa? Mi ha detto che la lettera gliel'hai dato al presidente. Gliel'ha dato. Sì, ma gliel'ha data allo staff del presidente, non è che gliel'ha data. Allo staff del presidente, è chiaro, mica gliel'ha data in mano a lui. Ci mancherebbe altro. Comunque, era lunga questa lettera. Può darsi che gliel'ha messo pure in mano, però. No, vabbè, adesso non facciamo, io non credo che gliel'abbia messo in mano adesso, dai, su, non credo. Comunque la cosa importante è che tra te e Trump c'è una cosa in comune, tutte e due siete appassionati di figa, su questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio, io gli ho fatto la campagna elettorale. Sì, e però in Italia... E se via c'è... Twitter lui mi ha risposto, sì. E ringraziandomi che ho sostenuto lui alla campagna elettorale. Ma sei sicuro che ti ha risposto lui? Sì, sono sicuro dell'ufficiale del suo Twitter. Sì, ma scusami un attimo, ma avete in comune questa cosa qui, no? A te ti piace? Avete in comune questo fatto che sei due appassionati di figa, diciamo la verità. Tu ormai... quella è la natura. Cioè è importante che il presidente americano sia un appassionato di figa, che gli piacciono le donne o no? Cioè è importante. Ma scusa, meglio lui che un frocio, presidente, o no? Ma scusa, se è uomo è uomo, se è un frocio è chiaro che non gli piace. Cioè è meglio avere un presidente che gli piacciono le donne piuttosto che un gay, piuttosto che un omosessuale. Ma, no, questo non... Sto cazzi loro. Beh, sì, ho d'accordo. Che te frega? Basta che non a me non mi interessa. Basta che non te toccano. Basta che non. A me basta che non tocca a me, non vuoi sapere niente. Sì, comunque, meglio un presidente come Trump che un frocio, diciamo la verità. No, è un presidente che sicuramente farà del bene all'America. E con questo. Io sono fiducioso di questa. Siamo persona. Tutti fiduciosi. Ci sentiamo domani. Ciao. Radio 24. Libera la voglia di fare.